Annuncio che stasera abbiamo ricreato quello che era un'ottima abitudine di ZAM, cioè quella di fare delle iniziative con più relatori del pubblico. Così, capito, siamo così tanti noi a parlare che già è un evento solo noi che parliamo, per cui minchia bomba subito, abbiamo già vinto, ciao, possiamo andare via. No, vabbè, nel senso che la serata è bellissima lo stesso, siamo comunque in abbastanza per parlare di quello che ci piace. Il percorso di... come si chiama il percorso? Che me lo sono dimenticato. Parole per dirlo, ma vedi, mi servivano le parole per dirlo, favoloso, neanche l'abbiamo preparato. La questione è che abbiamo notato in questo periodo in alcune persone che fanno parte del collettivo ZAM che mancano competenze e conoscenze che riguardino la filosofia politica, nello specifico, cioè tutto quell'insieme di pensieri, di storia di pensieri che ci aiuta a comprendere la realtà, ma soprattutto a organizzarci per cercare di cambiare qualcosa in questo mondo di merda. Per cui, scusate il francesismo, per cui... la nostra idea è stata quella di abbassare il volume, possibilmente, grazie mille, ci sta, grazie Jax, scusami. L'idea era quella di provare a riflettere su alcuni concetti chiave che in questo momento nel mondo vogliono dire molto spesso l'opposto di quello che hanno significato nella storia del pensiero, oppure che rappresentano in maniera evidente dei grossi punti dove il mainstream, il potere, la comunicazione mass mediatica, la conoscenza diffusa sono, come poterlo dire, orrendi, sono dei concetti svuotati completamente dal loro significato, che sono l'opposto da quello che erano quando sono nati. I concetti che abbiamo intenzione di affrontare sono quattro, oggi facciamo il primo che è il concetto di democrazia, poi parleremo di meritocrazia, quindi di potere, e alla fine del mestiere del militante o del mestiere di fare politica, il titolo qui è ancora da arrivare. Abbiamo avuto la fortuna di coinvolgere in questo percorso un po' di gente che per studi personali e interessi ne sapeva qualcosa. Mattia Pulsar, in arte Jacopo, nella vita vera Pulsar, e il nostro amico Cateno, per parlare sotto diversi punti di vista di democrazia. Per una cosa che riguarda la stretta materialità delle cose, abbiamo rivoluzionato al volo l'elenco degli interventi, perché poi Mattia si deve svegliare alle 4 del mattino, per cui diamo subito la parola a lui, che ci racconterà qualcosa di fantastico. Ah, ciao a tutti, a parte che è strano parlare nel microfono che non amplifica, ma... e allora, vabbè, io sono Mattia, ho studiato sia storica, faccio parte di un partito comunista, quindi porterò questo punto di vista, insomma, comunista, marxista, sulla questione della democrazia, e poi appunto volevo introdurre anche la questione, quindi, della democrazia operaia, sovietica, ecco. Ma inizio a dire che secondo me è importante soprattutto in questo momento parlare della questione di democrazia e ragionarci, perché diciamo che l'idea di democrazia in astratto, lo vediamo proprio ora, è un po' quella, come dire, paravento, maschera che comunque la classe dominante usa per legittimare il suo sistema, le guerre che fa in giro per il mondo, la repressione e così via. E appunto proprio per questo penso che è importante quindi andare a indagare questa questione della democrazia da un punto di vista appunto materialistico, concreto, di come è stata calata nella storia, no? E quindi rispetto a questo aspetto c'è la prima cosa da afferrare, su cui ragionare, è la questione che la democrazia, quei sistemi che sono stati chiamati democrazia nel corso della storia, appaiono sempre in società divise in classi, di cui una o più classi, insomma, una solitamente, domina e opprime le altre classi. E quindi già da questo si capisce che la democrazia come intesa in astratto, come governo di tutto il popolo e uguaglianza di tutti, diciamo, nel potere politico, in realtà non è mai esistita. Quindi nel concreto, ad esempio, poi penso che se ne parlerà più approfonditamente, però partendo dalla democrazia dell'antica Grecia, Atene, e la democrazia dei liberi, ma ad esempio ad Atene il numero di schiavi a un certo momento superò i liberi, gli schiavi assolutamente non partecipavano alla democrazia. O la democrazia borghese, come si forma nei comuni nel Medioevo, appunto la democrazia dei borghesi, di chi ha bottega, no? E ad esempio, infatti, a Firenze nel Medioevo ci sarà poi la rivolta dei Ciompi, non mi ricordo l'anno, però che erano gli operai della lana che appunto non avevano diritto di voto, erano esclusi quindi dal diritto di voto gli operai, ma anche i nobili, che erano quelli che il potere politico ce l'avevano prima, e la borghesia vincendo gli aveva tolto e poi anche diciamo quindi negli, nelle democrazie borghesi nazionali dopo la rivoluzione francese in Inghilterra, anche lì il voto è in base al censo e alla proprietà, quindi votano solo i borghesi. E quindi uno però giustamente penso che ora può pensare, vabbè, ma noi adesso invece abbiamo suffragio universale e il voto non è più limitato come era in questi esempi che ho fatto alla sola classe dominante. E infatti cioè, quello che però è effettivamente accaduto da quando nei vari paesi è stato conquistato il suffragio universale cioè, che penso è sotto gli occhi di tutti, che la democrazia borghese si è svuotata, non è più una democrazia, vediamo il Parlamento sempre più ridotto a camera di ratifica delle decisioni prese dal governo, col voto insomma puoi scegliere tra partiti che portano avanti tutta la stessa politica e soprattutto come dire, il potere economico della borghesia gli permette di avere un'influenza sul sistema politico enorme che nessun lavoratore potrà mai avere, mentre come dire, il regime di oppressione in cui vivono le masse popolari, i lavoratori, gli rende difficile avere una visione insomma, reale di cos'è la questione politica, no? Ci sono mille strumenti con cui insomma, la classe dominante fa diversione e allontana da questo tema qua. E diciamo nel Novecento c'è stato diciamo, una nuova forma di democrazia che è stata con la rivoluzione socialista, la democrazia sovietica, no? La democrazia sovietica, quindi quando Lenin ne parla, che cosa dice? Dice che la democrazia sovietica è una forma della dittatura del proletariato, no? Come dicevo prima, lui dice, usa questa formula dittatura perché interpreta tutte le società precedenti come dittatura di una classe, no? Prima c'era la dittatura dei proprietari schiavi, poi dei nobili, poi dei capitalisti e quindi la dittatura del proletariato. Quindi la democrazia sovietica è sempre una forma di democrazia in una società divisa in classi ancora. Ed è una forma con cui appunto il proletariato per prima cosa si difende dalla borghesia che ha scacciato dal potere, però si differenzia da tutte queste altre forme di democrazia in generale, società divise in classi, perché è anche un sistema con cui la classe del proletariato, che è la stragrande maggioranza della popolazione, opprime la borghesia, che è una piccola minoranza, l'esatto opposto di tutto quello che succedeva nelle società precedenti, e quindi deve essere una forma di democrazia più radicale, che permette una maggiore partecipazione rispetto a tutte quelle che si sono viste in precedenza, perché appunto deve garantire la partecipazione alla massa della popolazione. E il sistema per effettuare questo, diciamo, nasce dalla pratica stessa, non è che l'hanno inventato i comunisti o Lenin, è nato nel corso della rivoluzione sovietica, in realtà prima, nel 1905, quando gli operai di San Pietroburgo iniziano a organizzarsi in Soviet. E questo tipo di organizzazione però non è limitato alla Russia, anche poi quando ci sarà il Biennio Rosso in Italia, ci saranno i consigli di fabbrica, ci saranno i soviet in Germania, in Austria, e quando negli anni 70 ci saranno di nuovo i consigli di fabbrica, cioè proprio diciamo il modo di organizzarsi la classe operaia per quando inizia a porre la questione nel potere e poi quando lo prende, ecco. E insomma, chiudo descrivendo un pochino come funziona questo sistema, che fondamentalmente si basa su perché quindi permette una più ampia partecipazione, perché permette una partecipazione appunto diretta, cioè si basa su collettivi che gestiscono la fabbrica, il quartiere, la scuola, all'interno del quale i lavoratori, abitanti del quartiere e gli studenti appunto discutono e prendono decisioni su come gestire quell'unità, chiaramente in accordo disegno generale statale che accordi il tutto. Ognuno di questi collettivi elegge dei delegati che sono immediatamente revocabili se non seguono, diciamo, quella che è l'indicazione data dall'assemblea. I delegati formano un collettivo di livello superiore che può essere di zona, di città, inviano delegati a livello ancora superiore, regione, eccetera, fino ai vertici dello Stato che è il Soviet Supremo. Quindi si crea un sistema, diciamo, democratico che non è quello a cui siamo abituati. Qui si fanno le elezioni nei 5 anni, ma che richiedono una partecipazione costante e un costante controllo di quello che i delegati fanno per decidere se mantenerli o revocarli. come si capisce, non è un sistema di democrazia diciamo perfetto, innanzitutto escludo la parte della popolazione che sono i borghesi, e poi comunque mantiene un certo centralismo, una differenza tra dirigenti, cioè tra chi ha un livello superiore e inferiore. E questo perché appunto il socialismo è ancora una società divisa in classi. Quindi insomma, in questa prospettiva la democrazia vera, cioè quello che si intende con la parola democrazia, governi tutto il popolo, si raggiungerà poi nel comunismo, che è la società in cui tutta l'umanità insomma sarà unita a livello mondiale, non esisteranno più le classi e soprattutto saranno affrontate le differenze che anche dopo aver abolito le classi continueranno ad esistere per un certo periodo tra persone ad esempio che vengono da famiglie magari più istruite, chi viene da famiglie meno istruite, chi è più capace di parlare, chi è meno capace di parlare, le differenze tra uomo e donna, chi viene da regioni più avanzate, più arretrate, chi dalla città e dalla campagna, che continuano a costituire differenze che rendono di fatto sì, impossibile una reale democrazia. Quindi per chiudere, cioè, per rendere possibile la democrazia, chiaramente devono essere abolite le differenze, innanzitutto di livello di natura economica tra i vari membri della società, e poi anche tutte queste altre che sono di natura, diciamo, anche culturale, che sono quelle più difficili e lunghe da abolire, e che anche nella storia che abbiamo visto delle rivoluzioni socialiste sono, diciamo, quelle che poi hanno portato queste esperienze ad esaurirsi e a fare passi indietro, ecco, nonostante avessero abolito la proprietà privata, eccetera, però queste contraddizioni sono rimaste. E basta, spero di aver detto cose comprensibili e passo la parola. Grazie, posso parlare senza il microfono? Ah, hai ragione, va benissimo. Allora, ciao a tutti e tutte. Allora, quello che farò io adesso è un excursus storico del concetto di democrazia, quindi dei tempi antichi, della manifestazione della democrazia nell'antica Grecia, nelle poleis greche, ma non solo. Ci sono alcuni punti che hai detto che li ho trovati interessanti, perché si collegano con quelle che sono le differenze tra la democrazia odierna rappresentativa e quella antica che era diretta. Come dicevi tu, la democrazia sovietica appunto funzionava in maniera diretta, allo stesso modo nell'antica società greca si trattava, come dire, di una società dove i contatti erano faccia a faccia, quindi le decisioni si prendevano senza mediazione di uno Stato che si ponesse da intermediario. I cittadini prendevano decisioni che coinvolgevano se stessi, e quindi, diciamo, lo scontro politico era sempre imminente, diciamo, in quest'ottica. Il dibattito politico si basava più sul conflitto che sull'accordo. Infatti c'era questo ideale di accordo universale, di, come si dice, di unanimità, che appunto era irraggiungibile, appariva come irraggiungibile proprio perché così difficile da così lontano nella pratica. E questo è il motivo per cui il manifestarsi della democrazia nell'antica Grecia ha significato qualcosa di potente, dal momento che si trattava di allargare la partecipazione politica a tutti gli strati sociali, liberi ovviamente. Parliamo soprattutto del caso ateniese, in quanto di Atene abbiamo più fonti. Si tratta del primo stato che ha identificato il proprio sistema politico come democratico in maniera cosciente, ed è stato il modello di riferimento per cui nel corso della storia tutti i dibattiti, chiunque volesse diciamo turlupinare la democrazia, chiunque volesse portare alto il vessillo della democrazia, faceva riferimento anche in maniera indiretta ad Atene. Quindi all'inizio Atene, come dicevo, Atene è uno dei tanti stati della Grecia, una delle tante piccole entità politiche. C'è stato un movimento verso il governo democratico, che però, verso il governo del popolo, scusatemi, che però ha investito tutta la Grecia. C'erano vari fenomeni, alcuni riportati su fonti, ad esempio dai poemi omerici si può trarre il fatto che il popolo, il demos, la comunità dei cittadini, avesse una parte importante sia nelle assemblee, nel dirigere le decisioni magari dei comandanti, dei generali, dei re. così come magari sul campo di battaglia la coesione era tutto, quindi anche la creazione di quella che poi è diventata l'ideologia oplitica, ossia il far parte di un corpo militare basato sul proprio censo, quindi su quanto tu riesci a produrre di prodotto agricolo, e col ricavato ti compri la tua armatura, il tuo armamentario, e con quello scendi in campo di battaglia. Non è perché c'è qualcuno che ti sta pagando, tu scendi sul campo di battaglia e rappresenti la tua città e il tuo stato sociale facendo questo, e sul campo di battaglia crei con il tuo scudo, crei una difesa per chi ti sta accanto, quindi è uno scontro, un modello di scontro che si basa sulla coesione della forza militare. Quindi c'è tutta una serie di elementi che attraversano i vari stati greci e che si manifestano in vari output differenti, in vari tipi di democrazie differenti, così delineati da Aristotele nella sua opera La politica, dove egli crea uno spettro, un continuum di sistemi democratici che va da una semi-oligarchia fino alla dittatura delle masse, tra virgolette. Ad Atene cosa è successo? Ad Atene nel VI secolo a.C., all'incirca, fino a quel VI secolo a.C. c'era la società era controllata da una classe oligarchica che era basata sul possesso delle terre e sul controllo della manodopera dei lavoranti, e quindi vivevano in uno stato di semiservitù, di clientelismo, ecco. Cosa è successo? A un certo punto, nel 593 a.C. circa, una rivolta popolare ad Atene è stata, come dire, canalizzata, le energie di questa rivolta sono state canalizzate da un legislatore di nome Solone. Chi erano i legislatori? Erano figure di persone che a un certo punto prendevano, diciamo, dominavano l'assemblea e creavano delle nuove leggi, le riportavano scritte, e in questo modo si ponevano da mediatori sia tra il ceto dominante, quindi dell'aristocrazia, sia i ceti inferiori. Cosa fece Solone? Solone fece una serie di cose importanti, anche se non creò subito un sistema esplicitamente democratico, ma creò quelle istituzioni che avrebbero costituito l'espressione politica della democrazia, quindi del potere del demos, del popolo. Quindi questi organismi sono il Consiglio dei 400, poi divenuto il Consiglio dei 500, era un organismo che, tra le altre cose, stabiliva l'ordine del giorno di cui avrebbe discusso l'assemblea, e di altro non si poteva parlare in assemblea. E poi cos'altro creò? Creò il tribunale, l'Eliaia, forse non lo sto pronunciando bene, ma vabbè, che in seguito si sarebbe scomposto nei vari dicasteri a paralleli. Questo, come dire, perché? Perché più avanti ci arriveremo, ma questo sistema tripartito dell'assemblea, del Consiglio dei 500 e del tribunale avrebbe rappresentato il potere del demos, del popolo, su tutto lo spettro politico. Ma per arrivare a questo non si arrivò subito, perché per iniziare a funzionare queste istituzioni ci misero un attimo. Altre cose importanti che fece Solone fu quella di liberare i contadini dalla loro condizione di servitù, quindi bella tia, liberò, diciamo, anche dal peso dei debiti e delle tasse delle terre dei contadini, liberò i contadini di questo peso. Inoltre, fece una legge per cui nessun ateniese poteva essere ridotto in schiavitù, riscattò tutti gli ateniesi che erano stati venduti in schiavitù in terra straniera e impedì di poter, vietò di poter richiedere prestiti con garanzia sulla propria persona, quindi uno non poteva essere più, non poteva più diventare schiavo per debiti, insomma. Cosa successe dopo Solone? Successe che comunque l'aristocrazia mantenne il suo potere, successe che ci fu una tirannia, la tirannia di Pisistrato, che dagli anni 60 del VI secolo arrivò fin quasi alla fine del secolo stesso, nel 510, quando la tirannia fu scalzata da un'alleanza tra l'aristocrazia e Sparta. Questo perché a quel tempo l'aristocrazia era più internazionalista dei ceti bassi, e quindi gli aristocratici dei vari stati si aiutavano tra loro, e Sparta aiutava Atene, proprio perché la funzione ideologica di Sparta era quella di abbattere i tiranni. Wow, i tiranni erano espressione del popolo, attenzione, all'inizio i tiranni emergevano come espressione del popolo, di capipopolo che proteggono il popolo dagli abusi dell'aristocrazia, poi magari ne creavano una loro, però comunque si presentavano in questa maniera. Quindi dallo scontro politico con l'aristocrazia, pochi anni dopo, nel 507, e anche dalla cacciata degli Spartani che stavano prendendo il monopolio politico su Atene, fu la figura di Clistene, il quale possiamo dire che iniziò a introdurre una certa, un certo tipo di democrazia, possiamo chiamarla, anche se ancora quella parola non esisteva, sarebbe stata coniata solo nel secolo successivo. Lui cosa fece? Praticamente riformò l'esercito in maniera tale che pure i ceti bassi, i cosiddetti teti, potessero entrare nell'esercito e quindi poter partecipare anche alla, cioè essere un punto, un pilone fondamentale dell'azione politica in, estera della propria città, oltre al fatto che creò un sistema di autogoverno dei vari demi, così si chiamavano, delle, possiamo anche chiamarle tribù di Atene, quindi delle varie comunità situate nel territorio dell'Attica, che faceva parte del territorio di Atene, e in questa maniera, grazie all'autogoverno, si, come dire, creavano delle assemblee locali che avevano la facoltà di poter decidere chi ammettere come cittadino nella città e chi no, e quindi delegando questa funzione del attribuire la cittadinanza non più al centro politico, ma alle sue varie propaggini marginali, ecco così. Quindi il demos stava acquisendo potere. Nel corso del V secolo avvennero una serie di cambiamenti, soprattutto sul piano della politica estera. Come dicevamo, i popolani prendevano parte alle battaglie che soprattutto avvennero contro i persiani durante le guerre persiane, battaglia di Maratona 490, battaglia di Salamina 480. Lavoravano sulle navi perché, grazie al fatto di prendere il controllo della Lega Ellenica, che era, diciamo, un'alleanza tra vari stati greci che combattevano i persiani, Atene scalzò Sparta dal ruolo di condottiera di questa alleanza e quindi ebbe il monopolio su tutta la flotta, comandava la flotta, un sacco di suoi uomini lavorava sulle navi e dopo questa guerra lo faceva in maniera permanente. Quella che era un'alleanza pian piano diventò l'impero ateniese, perché pian piano Atene prese il sopravvento sulle decisioni politiche dei propri alleati, prese il controllo, insomma, di quello che potevano fare, richiedeva dei veri e propri tributi e spesso li chiedeva proprio in navi, e quindi Atene si ritrova ad avere una flotta gigantesca con cui i suoi uomini potevano andare a colonizzare nuovi territori nei quali poi si impiantavano i ceti inferiori, che potevano così creare colonie, potevano creare delle strutture più egualitarie a livello sociopolitico, ovviamente tra di loro, non rivolte all'esterno, però. E quindi che cosa? Quindi avvenne pian piano una serie di trasformazioni per cui Atene divenne una potenza internazionale, veniva attraversata da flussi internazionali, un sacco di gente che abitava nelle campagne si spostò in città, diventò una città attraversata da dei flussi imponenti, ed era una situazione completamente nuova. La gente, anche quelli meno abbienti, poteva lavorare sulle navi, poteva lavorare, c'era una mobilità sociale molto più elevata, e quindi questo permise anche l'allargamento della cittadinanza, e a un certo punto i tempi erano maturi perché avvenisse l'ultima, diciamo, mutazione che rese Atene la democrazia diretta più diretta che ci fosse in quel periodo ad Atene. Parliamo del periodo delle riforme di Effialte e Pericle. Diciamo, loro erano degli aristocratici che si resero conto che il gioco politico era cambiato. Per poter avere ragione dei propri avversari politici gli serviva il supporto del popolo, e quindi lo andavano a ricercare attivamente, facevano proprie le istanze popolari e dicevano: no, adesso, come dire, questi aristocratici comunque non fanno il bene dell'impero, pensano solo ai loro interessi e magari, come dire, si imbastivano pure dei processi politici contro i generali, perché questa è una cosa che è un po' mancato di dire, ma i tribunali andavano assumendo il ruolo di strumenti di controllo, di check di quello che stavano facendo i vari comandanti, le varie figure politiche anche a termine del loro incarico, i vari funzionari dello Stato ateniese, e quindi il sistema politico, diciamo, ormai era controllato quasi tutto dal demos, e grazie al fatto di levare il potere di veto all'Areopago, che era, diciamo, il tribunale supremo, che era l'ultimo bastione politico dell'aristocrazia, dove si giudicavano i casi di tradimento, dove sì, e di omicidio, e insomma quello era l'ultimo strumento che l'aristocrazia aveva per poter controllare il processo politico. Tolto quello, basta, l'assemblea era sovrana. era sovrana e attraverso il ricambio dei componenti del Consiglio dei 500 i cittadini si abituavano a parlare tra di loro con i propri pari, perché non era così semplice. Comunque l'assemblea fino a poco prima era stata luogo conteso tra aristocratici, magari anche amici del popolo, ma erano sempre una piazza controllata dagli aristocratici. Invece in questo modo, facendo un tale ricambio di persone, la gente si abituava a parlare, a intervenire, e quindi la partecipazione si allargava, si prendeva, toccava con mano come funzionava il sistema statale, si poteva venire puniti per la maniera in cui si conducevano le proprie cariche politiche. A un certo punto misero persino spendere il proprio tempo per queste istituzioni era pesante e gli ateniesi non si interessavano di politica fino a quando non toccavano i propri mezzi di sostentamento. Allora, che cosa fecero Pericle ed Effialte? No, Pericle perché Effialte era stato assassinato, visto che comunque non erano tutti d'accordo con queste, e quindi si stava quasi per manifestare una guerra civile. Però l'hanno scampata per il fatto di coalizzarsi tutti insieme e dire: oh bella, c'abbiamo un impero, e allora arricchiamoci sempre di più, perché l'impero portava ad arricchirsi tutti, pure i ceti più umili. Ma ti stavo dicendo, ormai il Demos aveva il controllo di tutto lo spettro politico. E quindi a un certo punto Pericle decise pure di restringere i criteri di cittadinanza, decidendo che solo chi aveva madre e padre ateniesi poteva accedere alla cittadinanza. In questa maniera, diciamo, ci fu un arroccamento di quella che era la comunità di cittadini, dal momento che comunque era sempre un gruppo ristretto, e ovviamente c'era la schiavitù, era una società con mille contraddizioni, e nonostante questo era un esperimento politico senza eguali nella storia, a nostro sapere. Ovviamente magari è successo qualcosa di simile in altri tempi, in altri luoghi, chi lo sa, però in quel periodo è successo un esperimento politico senza precedenti, si può dire. Cos'altro possiamo dire? Esatto. Pericle aveva introdotto una paga, questo mi stavo dimenticando di dirlo, grazie, proprio per i cittadini che prendevano parte ai tribunali, proprio perché era una pratica che portava via tempo e molti non se lo potevano permettere. Dando una paga per partecipare a queste al tribunale, si dava mezzo a tutti di partecipare, anche proprio in maniera fattiva, si dava il mezzo economico di farlo. Poi nel secolo successivo, di questo non parleremo, ma giusto per far noto, si pagavano i cittadini pure per venire in assemblea, proprio perché, come dire, era una cosa che portava via un sacco di tempo. I cittadini potevano andare al mattino a prendere posto per partecipare all'assemblea, e magari al tramonto erano ancora lì a discutere se era magari un periodo pieno di cose importanti da decidere. Quindi ecco, si usavano tutti questi metodi che legavano, appunto, poi magari Cateno ce ne parlerà meglio, ma il fatto di allargare un impero, di creare un impero che porta così tanti frutti per il popolo ateniese, tutte le classi sociali beneficiano dei frutti di questo impero. Allora è qui che la partecipazione politica si attiva e un cittadino si viene stimolato a partecipare. E infatti questa è una delle differenze maggiori con la democrazia odierna, che quella democrazia lì era diretta e si prendevano, diciamo, direttamente in causa la propria persona quando si cercava di prendere decisioni. Il potere del popolo inoltre ha un'etimologia, il kratos, demos, popolo, kratos, forza, potere. Aveva un'etimologia che è legata proprio al fatto di stringere, il popolo che stringe in pugno il potere, mentre questo è un concetto che non ha niente a che fare con la sovranità, che poi è stata teorizzata da Jean Baudin nel XVII secolo, se non erro. E quindi, insomma, anche il concetto di stato hobbesiano, no? Il leviatano, che dal quale il singolo si deve difendere le proprie prerogative, i propri diritti, non esisteva. I diritti umani non esistevano, i diritti delle minoranze non esistevano, non venivano considerati. Come un'altra cosa che mi legava a quello che diceva prima Tia, che nella democrazia sovietica la borghesia diventa una minoranza e non viene contata, stessa cosa qui, le minoranze non vengono calcolate, i diritti umani non esistono, ci sono solo diritti civili, si guadagna il proprio diritto a partecipare alla politica solo mettendosi attivamente in gioco. Ora potrei aver dimenticato mille cose, però mi sembra anche di potermi interrompere qui e di passare la parola a Cateno. Beh, come sempre, parlare per ultimo o per penultimo, forse c'è un altro, diciamo, intervento. È da un lato vantaggioso, dall'altro chiaramente si ha la sensazione che siano state dette tante cose interessanti, e quindi forse il mio intervento sarà più una sorta di commento a quello che è stato detto, ma probabilmente anche per la classica deformazione professionale forse solleverò più interrogativi che dare risposte, no? Il primo interrogativo che si pongono gli storici della democrazia e che anche noi penso siamo portati a porci è questo, cioè perché c'è questo interesse verso l'analisi di un tipo di democrazia che risale a conti fatti a 2500 anni fa e che a ben vedere probabilmente, a parte il nome e a parte alcune pratiche ristrette, come è stato sottolineato, è molto diverso dal nostro per tanti motivi, alcuni sono stati elencati, no? Cioè il fatto che salta subito all'occhio è quello di trovarci di fronte a una democrazia diretta, mentre la nostra per tanti motivi non lo è. Si tratta di una democrazia che esclude la partecipazione di una larga fetta, di una larghissima fetta di persone, no? Secondo le stime medie, diciamo così, degli storici, nell'Attica, nel periodo di massimo splendore di Atene, facciamo nel periodo che va nell'età di Pericle, no? Dal 460 al 431, la scoppia della guerra del Peloponneso, si stima che in Attica abitassero grosso modo 500.000 persone, qualcuno dice 300.000, qualcuno dice 600.000, ma mettiamo 500.000 persone. Di queste 500.000 persone circa, ovviamente non c'era l'anagrafe, quindi le stime sono sempre approssimative, non c'erano i registri battesimali, quindi sono ancora più approssimative. Di queste 500.000 persone, grosso modo, sempre secondo alcune le stime che vanno per la maggiore, 40.000-50.000 erano gli individui che godevano di diritti politici, cioè i cittadini a tutti gli effetti, ovviamente maschi, adulti, ateniesi. Le regole per essere un ateniese sono già state citate, cioè dal 450 in poi solo chi aveva entrambi i genitori ateniesi, proprio a sottolineare, a rimarcare questo, come si parlasse di diritti. La discussione della democrazia ateniese è una discussione sui diritti civili, non sono mai in discussione i diritti umani, che rimangono nettamente separati, no? Di fatto rimangono esclusi gli schiavi, i bambini, come funziona ancora oggi da noi, e le donne, chiaramente. Non c'era una divisione dei poteri, non c'era una netta definizione dei poteri, no? Gli stessi cittadini che si ritrovavano a ricoprire alcuni incarichi erano gli stessi che facevano le leggi, poi giudicavano al tribunale, poi avevano il potere esecutivo. A volte anche quasi contemporaneamente poteva succedere. D'accordo? Questi sono solo diciamo, alcuni degli elementi che differenziano la democrazia ateniese. È bene sottolineare ateniese perché ci sono delle differenze, delle specificità, chiaramente. No? Non solo ad Atene c'era un regime che i greci definivano democratico. In altre città, soprattutto dopo la fondazione dell'impero ateniese, dopo la creazione della Lega Delioattica, volenti o nolenti, molti alleati di Atene si ritrovano ad avere un regime democratico perché è il regime filo-ateniese. Chiaramente i regimi filo-oligarchici pendono più dalla parte di Sparta, chiaramente. E sono dei regimi che a volte si insediano o per convenienza, oppure con la forza vengono insediati da Atene. Però non presentano lo stesso meccanismo e la stessa larga base di partecipazione politica di quello che si verifica ad Atene. Atene è probabilmente l'unico caso in Grecia della cosiddetta democrazia radicale, che come ha sottolineato bene prima Jacopo, giusto? Come ha sottolineato bene prima Jacopo, non si afferma tutto in una volta, si afferma progressivamente, non sappiamo con esattezza la discussione anche questa, cioè come, quando e perché possiamo parlare di una democrazia compiuta ad Atene. Siamo sicuri per il IV secolo? quindi dopo la guerra del Peloponneso che finisce nel 404, dopo l'esperienza del governo dei 30 tiranni insediato da Sparta in funzione antidemocratica e in funzione filospartana, governo rovesciato pochissimo tempo dopo da Trasibulo, e poi nel IV secolo abbiamo una rinnovata democrazia di un Atene che ha ancora una vivacità politica ma non ha più quell'importanza e quel predominio che aveva 50 anni prima, per forza di cose, anche una sorta di lega delioattica viene rifondata, ma in tono minore, diciamo così. Però la democrazia radicale forse si afferma maggiormente con Trasibulo, tanto che le fonti antiche molto spesso identificano Trasibulo come il vero fondatore della democrazia ateniese, no? E c'è chi l'ha rintracciata nelle riforme di Solone, la famosa seis actei a cui ci si riferiva prima, no? Quello scuotimento dei pesi, cioè liberare gli ateniesi dai debiti ed evitare che finissero imprigionati per questioni di debiti. C'è chi la individua un passaggio importante, quello di Pisistrato, no? Perché Pisistrato è un tiranno, ma col consenso popolare, che mantiene alcune forme di partecipazione popolare. C'è chi dice che comincia con Pericle, altri poi dicono direttamente con Clistene, scusate, subito dopo Pisistrato, qualcuno con Pericle e altri direttamente Trasibulo. Anche la cosiddetta riforma di Solone, che avrebbe istituito le quattro classi in cui venivano divisi i cittadini ateniesi, no? Questa cosa uno, non so, quelli della mia età, i miei studenti non più, ma io me lo ricordo dalle scuole elementari, i pentacoseum edimni, no? No, i pentacoseum edimni, che in base al censo di fatto, no? Cioè in base ai medimni, che erano una misura agraria che serviva a identificare la possibilità di reddito, diciamo così, coloro che avevano 500 medimni, i cavalieri 400, gli zeuciti che arrivavano fino a 200, e poi i teti, che erano quelli che non ne avevano, avevano meno di 200. Come? I poveracci, esattamente. Ecco, probabilmente c'è uno studioso che si chiama Ralph Laub, sostiene che questa riforma attribuita a Solone non l'abbia fatta Solone, risalga addirittura al periodo di Pericle, compiutamente in questo senso. Quindi non c'è accordo nemmeno in questo tra gli storici, proprio perché le fonti sono sempre, non sono sempre chiarissime, a volte sono contraddittorie, a volte sono faziose, a volte perché hanno degli interessi anche loro nelle discussioni che fanno. Ma effettivamente probabilmente la democrazia, si può parlare di democrazia quando anche i teti, cioè l'ultima classe sociale, ha una sua capacità di apporto politico e possibilità di partecipazione attiva alla politica in termini di potere di elezione, cioè di votare di fatto, e potere di partecipazione alla politica. Tra l'altro, detto per inciso, probabilmente diciamo cose che un buon studente di liceo, quantomeno di liceo classico, forse conosce bene, molte delle cariche politiche e amministrative, tolta qualcuna, ma molte di queste cariche erano delle cariche che venivano scelte tramite sorteggio. Questo garantiva un turnover, potremmo dire, no? Cioè un ricambio in queste cariche che molto spesso non potevano essere ripetute per più di 2 anni di seguito, quindi, no? Quindi a meno che uno non lo volesse, cioè, ovviamente nessuno era obbligato, no? Se uno non voleva non si iscriveva nelle liste, non dava la propria disponibilità, ma chi dava la propria disponibilità aveva nel corso della propria vita molta possibilità di essere sorteggiato per molte di queste cariche. Quindi nel corso della propria vita adulta un cittadino ateniense si poteva trovare nella condizione di assumere diversi incarichi e di conoscere di fatto come funzionava l'organizzazione amministrativa e politica della propria città, della propria polis, del proprio stato, di fatto, no? Perché noi diciamo Atene, ma quando diciamo Atene ovviamente dobbiamo considerare l'Attica. Anche la famosa riforma di Clistene, perché è stata profondamente innovatrice e profondamente efficace anche in senso democratico? Perché la divisione in demi, che erano circa 140 demi, no? Prevedeva una divisione in fratrie. Queste fratrie poi venivano raggruppate a 3 in trittie, d'accordo? E poi ogni trittia identificava un posto diverso che poteva appartenere alla costa, all'entroterra o alle zone più collinari e montuose, quindi al centro cittadino, di fatto, il centro urbano di Atene. Le zone invece dell'entroterra, che erano quelle degli agricoltori, di fatto, e le zone costiere, che erano più interessate al mare, ovviamente, no? E queste 30 trittie poi venivano raggruppate in 10 tribù. E ogni tribù aveva una componente della costa, una componente urbana e una componente dell'entroterra, per garantire la diversità e la rappresentazione di interessi diversi, in modo tale che non si creassero fazioni molto diverse tra loro, no? La fazione di quelli che avevano solo gli interessi sulle coste, sulla pesca, sul commercio marittimo, gli interessi del centro urbano, gli interessi delle aree rurali, che erano contrapposti, no? E quindi poi la Bulè, quando diventa di 500, è composta da 50 membri per ogni tribù. Era un sistema un po' macchinoso, ma che serviva a garantire la rappresentanza di tutti gli interessi diversi all'interno della polis. Quando diventa una democrazia? Quando si può parlare, a mio avviso, ma non a mio avviso, nel senso che concordo con gli studiosi che sostengono questo, quando anche i teti hanno una possibilità di partecipazione politica. Quando avviene questo? E qui c'è un'altra domanda che si può sollevare sul come e sul perché. Probabilmente questo avviene in maniera compiuta quando anche i teti hanno la possibilità di partecipare militarmente alla difesa dello Stato. E questo avviene a partire dalla fine della Seconda Guerra Persiana, quando sull'onda di ciò che aveva pensato Temistocle di dotare Atene di una flotta per fronteggiare l'invasione persiana, quando la flotta viene creata, quando Efialte e Pericle assumono il controllo, quando vengono costruite le lunghe mura, intorno al 450 vengono costruite le lunghe mura, che sono delle mura che partono, che servono a garantire la difesa, un corridoio sicuro, potremmo dire, dal centro cittadino al Pireo, che è il porto, no? E a quel punto la flotta assume un contesto importante e fondamentale, e Atene arriverà ad avere la flotta più potente del Mediterraneo, che nei periodi di massimo splendore, poco prima della guerra, dello scoppio della guerra del Peloponneso, ricordiamo 331, arriverà a contare circa 200 navi. Se consideriamo che ogni trireme aveva un equipaggio di circa 200 persone, 200 per 200 fa 40.000. 40.000 persone che lavoravano nelle triremi, la gran parte delle quali erano i rematori, che consiste il grosso dell'equipaggio. Quindi stiamo parlando, abbiamo detto che i cittadini erano 50.000. Quindi, chi sono i rematori delle trireme? Sono in parte schiavi, in parte mercenari, probabilmente nel corso degli anni il peso dei mercenari aumenta, ma ancora quando funziona nell'apice del periodo classico, nell'età periclea, i mercenari ci sono, ma gran parte anche di costoro chi sono? Quelli che non possono comprarsi un'armatura, quelli che non sono opliti e che vanno a lavorare nelle triremi. E che andando a lavorare nelle triremi vogliono avere il loro peso politico. È stato a lungo discusso se l'ordinamento democratico ha favorito la creazione di questo sistema per cui i teti potessero lavorare a difesa dello Stato, essere assoldati dallo Stato e quindi far sviluppare la democrazia, o se al contrario è stato lo sviluppo delle triremi che ha favorito la democrazia. Io propendo per questa seconda ipotesi, cioè la democrazia non è stato sempre per forza un sistema calato dall'alto, ma è un sistema che a seguito di una serie di rivolte, rivoluzioni, quella del 508-507 a cui si accennava prima, con Clistene contro Isagora, gli Spartani, ecco quella, qualcuno sempre questo Raflaub a cui accennavo prima, la paragona alla presa della Bastiglia, lui è convinto che ci fosse stata una sollevazione popolare senza capi, che abbia dato un impulso decisivo a questa rivolta popolare, appoggiando poi il movimento di Clistene, ma che sia stata una rivolta dal basso, che come la presa della Bastiglia ha dato impulso alla rivoluzione francese, d'accordo? Passando per quello, passando per l'enorme impulso che è stato dato dalla battaglia di Salamina in particolare, più ancora che di quella delle prime guerre persiane, no? E io sono convinto che appunto il fatto che non si potesse più non tenere in considerazione questa gente che era lì a combattere per lo Stato, a lavorare per lo Stato, era un requisito imprescindibile per cui si è sviluppata questa democrazia, anche perché è vero che c'erano altre città con delle flotte, sempre in funzione ateniese come accennato prima, è vero che c'erano altre democrazie, ma nessuna con un'esperienza così radicale come quella ateniese, proprio perché nessuna aveva una componente della flotta popolare, veramente popolare, come ce l'aveva Atene. Questo ci porta a un altro interrogativo. Qual è il ruolo e la funzione di un apparato militare popolare nella creazione delle democrazie? Sempre per fare questo paragone che è stato fatto tante volte con la democrazia ateniese e come si sviluppa e poi con la rivoluzione francese come si è sviluppata, c'è uno studioso che si chiama Roger Kellois, un sociologo francese con, diciamo, forse anche più filosofo in alcune sue interpretazioni, che in un libro che si chiama La vertigine della guerra, che è un excursus sul modo di fare guerra dall'antichità alla contemporaneità, è un libro del 1961, quindi scritto dopo la Seconda Guerra Mondiale, scritto con ancora una guerra fredda in corso, diciamo così, no? E che sostiene che il modo di fare guerra cambia radicalmente con la Rivoluzione Francese, perché si crea per la prima volta un esercito volontario di nazionali in cui per la prima volta non si ha più distinzione intanto gerarchica all'interno dell'esercito, nel senso degli ordini come era nell'antico regime. Cioè nell'antico regime per lo più gli ufficiali, siccome nell'esercito l'unica gerarchia è quella dei gradi, tradizionalmente gli ufficiali erano i nobili e poi chi andava a combattere andava a combattere, a parte i casi poi di scalata per meriti sul campo, diciamo così. No. Con l'esercito popolare non funziona più in questo modo, no? L'unica gerarchia rimane davvero quella dell'esercito, ed è un esercito davvero popolare che coinvolge la nazione e che prevede, proprio perché si combatte per gli ideali della nazione, un coinvolgimento diretto dei cittadini che vogliono anche loro avere il diritto di partecipare attivamente alla gestione dello Stato. E quanto più uno Stato diventa democratico, tanto più, secondo che lo ha, la partecipazione e la gestione dell'esercito diventa un affare di Stato e si creano gli eserciti permanenti, si crea la leva militare obbligatoria. E la guerra cambia perché, venendo a mancare la distinzione tra civile e soldato, diventa una guerra totale, dove non c'è più distinzione tra il campo di battaglia e ciò che non è campo di battaglia, tra gli obiettivi militari e gli obiettivi civili. E l'idea di Kellois è che questo giunge all'apice nei totalitarismi, che essendo totalitarismi con il consenso popolare così allargato come si è visto nel Novecento, conducono una guerra basata sulla cosiddetta mobilitazione totale. Ora, la domanda che pone Kellois, intanto dice una frase molto bella, che dice: i diritti del cittadino coincidono con i doveri del soldato. E la sua convinzione è che quando c'è un governo elitario che non coinvolge la popolazione, che ha un certo modo di fare guerra, le guerre sono in qualche modo limitate. Quando invece c'è un governo civile di partecipazione quanto più democratica, allora la guerra si estende a dismisura, non distinguendo più, appunto come dicevamo prima, tra ciò che attiene al militare e ciò che attiene al civile. Il quesito che pone Kellois, è un quesito su cui possiamo discutere, è questo, cioè la partita che noi giochiamo è su due fronti, perché noi, Kellois è uno di quelli che vorrebbe una limitazione, semmai ammesso che la guerra non si possa estirpare totalmente, no? Una limitazione del modo di fare guerra, però coniugata con un'estensione dei diritti a tutti, cioè con una democrazia effettivamente compiuta. Lui dice che su questo tavolo finora abbiamo perso o da un lato o dall'altro, e la sfida semmai sarebbe di ottenere entrambe le cose. Che si possa fare o non si possa fare, resta da vedere. Poi se ci sarà tempo mi piacerebbe anche parlare, però magari spaziare anche gli altri, di come i filosofi, soprattutto i filosofi antichi, abbiano inteso la democrazia e di come i filosofi si siano posti nei confronti della democrazia ateniese, perché noi poi magari ne parleremo. Da un lato abbiamo due filosofi anche molto diversi tra loro, Anassagora e Protagora, che erano amici di Pericle e che in un certo qual modo avevano un'idea anche fondata metafisicamente e mitologicamente, nel caso di Protagora, di difendere la democrazia. E come sono finiti entrambi per un processo di impietà, probabilmente dopo che è morto Pericle, non avendo più, diciamo così, la protezione del personaggio che poteva garantirgli la sicurezza. E dall'altro lato però troviamo Platone che contesta, e forse Socrate, probabilmente, per quello che ne sappiamo, ci dice Platone, che contesta questo modo di vedere la democrazia, no? Socrate fa la stessa fine, per altri motivi, sotto un regime democratico. Vabbè, magari poi ne parliamo più approfonditamente. Ciao a tutti, sono Alberto. Io ho studiato filosofia, come credo anche Cateno, immagino. Non so se tu sei, hai studiato storia. Sì, infatti. Quindi diciamo che l'intervento di, dimmi il tuo nome, Jacopo, era un po' più storico, anche quello di Cateno. Io diciamo la prendo un po' sull'attualità e su una base un po' più filosofica, perché essendo il primo incontro, secondo me è giusto chiarire un po' i termini. E posto che delle questioni di cui parliamo fanno corsi di 60 ore nelle università sul che cos'è la filosofia, cos'è la politica, cos'è la democrazia. Hai 15 minuti. Sì, quindi non è facile. Io partirei comunque, perché non si dà per scontato che tutti abbiano fatto filosofia nemmeno al liceo, perché purtroppo negli ITIS e nei professionali non si fa, che la filosofia è un tipo di riflessione che un po' si concentra sulla struttura, sui fondamenti di un campo, ok? Quindi voi potete trovare la filosofia del diritto, la filosofia della politica, la filosofia di qualunque cosa, oserei dire. Su questo i stessi filosofi potrebbero essere in disaccordo, però noi diamo per buona questa definizione, quindi come di riflessione sui concetti di base di qualcosa. E quindi che cos'è la filosofia politica? La filosofia politica riflette sulla politica. E vi volevo leggere la definizione di un libro che ho dimenticato lì, ma vi faccio vedere, di Carlo Galli, che secondo me è il più importante filosofo politico italiano, è vivo. E tra l'altro è appena uscito, e il mio consiglio sarebbe, anziché sentire noi, comprate questo, leggete questo, che è un gran libro, è appena uscito, si intitola proprio Democrazia Ultimo Atto. E sì, se venisse Carlo Galli sarebbe bellissimo. E lui definisce come la politica, come la convivenza umana dal punto di vista dei rapporti di potere, quindi di comando e obbedienza, di inclusione ed esclusione, che necessariamente vi si instaurano. Quindi c'è una convivenza, siamo in tanti, giusto? Dobbiamo vivere insieme, vivendo insieme si creano rapporti di potere, e in questi rapporti di potere, quando voglio dire, quando ci riflettiamo sopra, facciamo filosofia politica. Quindi tutto ciò che voi pensate, la sovranità, l'obbligo politico, perché qualcuno ci deve obbligare, per quale motivo devo obbedire a una legge, per quale motivo il potere va separato, se è separato da chi, perché i giudici devono avere il potere. Tutte queste robe è filosofia politica. E ora, tra tutti i concetti noi su cui si può riflettere, noi stasera abbiamo scelto democrazia. Un'altra cosa, io penso che ci sia una gran confusione su tante cose nel 2023, ma c'è una gran confusione in particolare nel dibattito sui concetti di base della politica. Nel senso che se voi prendiamo un argomento come il conflitto israelo-palestinese, c'è una gran confusione su che cosa sia uno Stato. Lo Stato è proprio un fondamento della filosofia politica, perché se c'è una guerra tra due Stati, ma uno non è uno Stato, ma si fa finta che sia uno Stato, e questa confusione, questa torsione dei concetti di base avviene in tanti campi. Se voi pensate anche al termine sovranità, il concetto di sovranità è, come diceva prima lui, è la base della riflessione politica moderna. Cioè riflettere sulla politica senza nominare la sovranità è impossibile. Eppure poi siamo arrivati a doverci sentire per 5-6 anni utilizzare la parola sovranismo in un'accezione completamente distorta. La stessa cosa con liberalismo. Adesso uso, dico liberalismo perché? La scelta di usare il termine liberalismo, liberismo, liberalismo, neoliberalismo o neoliberismo, voglio dire, sono concetti che hanno una storia e quindi se si fa la storia delle idee si sa, ma concetti su cui bisogna riflettere qual è il confine, e questa cosa è inesistente. Quindi c'è una gran confusione, un gran parlare, secondo me, senza avere idea, ma degli stessi politici, a volte in maniera propagandistica, a volte in maniera semplicemente per ignoranza, senza avere idea dei confini di base. Ora io sulla democrazia, parlando dell'attualità, vorrei dire tre cose, poi faccio un intervento super breve, poi sarebbe interessante sapere le vostre opinioni. Secondo Carlo Galli, io condivido, alla fine se noi usiamo la parola democrazia per tutto, voi sapete, magari qualcuno di voi viene dal campo scientifico, se un concetto scientifico include tutto non ha più senso. Cioè la capacità definitoria di un concetto è importante, perché se poi non c'è un dentro, non c'è un fuori dal concetto, il concetto non vuol dire nulla. Quindi dire democrazia, come abbiamo visto anche prima, e quando noi diciamo democrazia intendiamo Atene, poi non lo so, la democrazia nell'Ottocento in cui le donne non votano e i tantissime persone povere, analfabete, non possono votare, e la democrazia nel Novecento, usiamo la stessa parola, facciamo una grossa confusione. Quindi un primo punto di partenza sarebbe dividere il Novecento, la seconda parte del Novecento, in due fasi. Cioè considerare dal 45 al 73, dopo vi spiego perché 73, la democrazia come democrazia liberale, e poi dal 73 ad oggi la democrazia come democrazia neoliberista. Ora, velocissimo su questi concetti, la distinzione liberale-liberista è puramente italiana, deriva da una discussione che hanno avuto Einaudi e Croce a suo tempo, ma non esiste nelle altre lingue si usa liberale. E perché dal 45 al 75 un tipo di democrazia e dal 73 ad oggi un altro tipo di democrazia? Perché i 30 anni dopo la guerra sono i 30 anni, diciamo, di grosso compromesso, in cui ci sono partiti comunisti molto forti, è finito la dittatura, l'Italia e la Francia sono i partiti comunisti più grandi d'Europa, e c'è la minaccia di là che incombe, no? Il comunismo e la cortina di ferro. E tutta questa cosa provoca una cosa che gli storici chiamano i 30 anni gloriosi, nel senso che la fine della guerra, tutto da ricostruire, quindi il capitalismo, quando c'è tutto da ricostruire, sicuramente è tutto più facile. E in più la minaccia del comunismo, probabilmente lo stato di benessere, senza probabilmente, credo sicuramente, più alto, più diffuso che l'umanità abbia mai avuto. Diffuso nel senso che anche gli operai c'erano tutti altri problemi di tipo simbolico, di tipo, prendiamo l'alienazione, che è un concetto, anche questa è una parola un po' strana, però l'operaio, quindi facciamo una vita di stenti, però poi a livello materiale sicuramente in quegli anni ci sono dei progressi, si fanno le case popolari, adesso sto andando molto sul semplice per capirci. E Galli questa la definisce la democrazia liberale. Io mi concentrerei, gli ultimi 5 minuti di questo intervento, invece sulla democrazia neoliberista, perché in che fase siamo noi ad essere la democrazia? Siamo in una fase in cui innanzitutto la sovranità dello Stato è limitatissima, nel senso che un grosso problema, probabilmente per quale motivo il PD tra i 20.000 motivi fa schifo, per cui se ovviamente tu proponi la Meloni come oddio sta arrivando il nuovo Mussolini, ma poi non inquadri quello che succede, la Meloni non può fare nulla. Infatti cosa sta succedendo? Farà una manovra da 22 miliardi, 23, farà due spicci, perché tecnicamente, come tutti i governi, nel senso la Meloni, Renzi, c'è uno spiccio in più, uno spiccio in meno. E quindi lo Stato ha una sovranità limitata. Succedono cose sul suo territorio che lui non può controllare. Questa cosa comincia negli anni 70, all'apice negli anni 90, adesso con Big Tech ha un altro apice. E questo è un problema, nel senso che poi noi, se abbiamo anche, c'è tutta la categoria di problemi che sono dei primi intervento, per cui la democrazia formale, la democrazia rappresentativa, facciamo finta che non ci siano, ma poi, se poi nella democrazia rappresentativa non possiamo neanche controllare attraverso i nostri rappresentanti, per esempio la tassazione di tantissime aziende che sono qua, è tutto svuotato, no? Come forse dicevi te, se non mi ricordo, tutto svuotato di senso. E questo è il primo concetto, nel senso che se noi distinguiamo tra una fase della democrazia liberale, in cui c'è uno stato sociale forte, e una neoliberista, vediamo già che ci troviamo in una situazione ben peggiore, cioè a mio parere comunque molto quasi drammatica, oserei dire. Non dal punto di vista materiale unicamente, ma dal punto di vista degli spazi dell'agire politico, e questo è il secondo punto. Quello che loro hanno detto, il fatto è che ad Atene non solo c'erano tutte le cose che hanno detto, ma poi ci sono i luoghi, no? Se voi andate ad Atene adesso, andate a visitare Atene, c'è il luogo dove si tenevano le assemblee. Sotto il Partenone ci sono proprio i luoghi dove... E noi, e soprattutto a Milano, viviamo in un momento di completo svuotamento, ma fisico. Cioè ci sono tolti, non esistono i luoghi. Dovrebbero essere i consigli di municipio, ma i consigli di municipio, se fossero realmente partecipati, se valessero qualcosa, se poi il comune... E non ci sono piazze, no? Voglio dire, dobbiamo andare in un centro sociale per parlare di qualcosa che riguarda tutti, quando questa cosa dovrebbe essere una cosa, diciamo, di dominio comune, in una piazza, prendiamo e parliamo, ci sono le elezioni, non si fanno i comizi neanche più per le elezioni, perché io nel 2021 non ho visto nulla. Quindi... quest'altro secondo punto, il primo punto è, come ho detto, è il fatto che lo Stato non controlla quasi più niente, quindi eleggiamo persone che poi alla fine possono far poco. Il secondo punto è che gli spazi non ci sono, no? Quindi proprio a livello urbanistico, come dicevamo l'altra volta con Lucia Atoz. E poi altri due punti e finisco. C'è la questione delle disuguaglianze, in che senso? Che in una democrazia neoliberista è che il fulcro di quando usiamo la parola liberismo è che la società deve regolamentarsi con la competizione. La competizione è buona, c'è il vincitore, c'è il perdente, chi compete e vince, buon per lui, chi compete e perde, mi spiace, è un perdente. Il problema è che questa cosa crea cosa di cui gli economisti che principalmente sono liberisti, questo vabbè, ci porterebbe da tutt'altra parte, non capiscono che prova uno slabbramento nella comunità, nella società, enorme. Nel senso che poi le società nella storia umana non si sono mai rette così. O c'era la religione che le teneva insieme, come dice la parola, o c'era il nazionalismo, quindi il farsi di uno Stato nell'Ottocento, o il nazionalismo totalitario nel Novecento, ma non è mai esistita una società che è così atomizzata come la nostra. Quindi questa cosa della democrazia neoliberista che è fondata sulla competizione, che crea un vincitore e un perdente, non solo distrugge la base stessa della convivenza, per cui diventa quasi inconcepibile lo stare insieme, perché se io competo, devo stare da solo, ogni problema che io lo devo risolvere da solo, e poi diventa inconcepibile l'agire comune per una causa. È per questo che si fa così tanta fatica, perché per le persone è diventato inconcepibile. Se c'è un problema, non devo risolverlo con gli altri, me lo devo risolvere da me. E oltre quindi a entrare nella testa, e la partecipazione politica, nel senso, voi vedete i grafici della partecipazione solo alle elezioni, che sarebbe già poco, perché poi la partecipazione andrebbe agita tutti i giorni con esempi simili, cioè come dicevano loro, oltre a entrare nella testa poi, crea delle disuguaglianze di potere, di sapere enormi. E il problema vero, secondo me, quello con cui bisogna scontrarsi in questa fase della democrazia è che la disuguaglianza di sapere è talmente grande che la maggior parte delle persone non si rendono neanche conto di quello che succede. Ok? E vi cito Galli, ho finito. Il problema è che le disuguaglianze è talmente abissale, ok, che non c'è la consapevolezza della struttura e dei processi che sottostanno alla vita associata. E quindi, ecco, secondo me il lavoro da fare è, riflettendo su che cosa sia, partendo da un concetto, poi cercare di calarlo nella realtà, e insomma, so che è un po' disperante, però la prima cosa è sempre capire nella situazione in cui si è, no? Per tentare poi di cambiarla. Basta, finito. Grazie, grazie mille Alberto. Tra l'altro Alberto, caso incredibile di serendipity, per cui è venuto qui una volta a ascoltare un libro, è stato tirato dentro a fare tutt'altro. Ma allora, a me onestamente sono piaciuti moltissimo tutti gli interventi e ovviamente, allora, prima non l'abbiamo detto perché davamo per scontato, un po' perché volevamo far parlare chi avevamo invitato, ma in generale ovviamente qualsiasi tipo di intervento è sempre benvenuto, quindi si alza la mano, il microfono viene dato, tanto non serve a niente, ma comunque chi vuole parlare può parlare quando vuole. Io volevo strappare la promessa a Cateno che se non facciamo in tempo stasera ad ascoltare alcune posizioni che aveva messo nella sua scaletta, le scrive, le pubblichiamo scritte perché erano altamente interessanti. Io avevo un brevissimo intervento da fare, poi secondo me appunto, io avrei delle domande a fare a Cateno, ma anche ad Alberto, ma anche a Jacopo, vabbè. Era un approccio molto più politologico sul significato delle parole, come quello di democrazia, che sicuramente, come diceva prima Alberto, è un termine che nel tempo ha perso molto del suo valore nel momento in cui indica una cosa al suo contrario. E prima nell'intervento di Jacopo, per esempio, si parlava del fatto che, o anche di Mattia, la democrazia è una dittatura di una classe sulle altre. Cioè, questo fa, cioè, dato che democrazia e dittatura nel mainstream sono i due opposti totali, per cui da una parte hai gli stati liberi, le elezioni, gli Stati Uniti d'America, eccetera, eccetera, dall'altra hai i comunisti, le dittature, le etocrazie, tutte le cose orribili di questo mondo. Poi in realtà molto spesso quando parli di democrazia diventa essa stessa un tipo di dittatura sulle altre classi. La si chiama democrazia perché? Perché quella è la classe più estesa e allora è la classe che è più deputata a governare perché è il popolo, oppure è quella che ha governo del popolo e quindi ha ragione di governare perché lo gestisce. Quindi in pochissimo tempo democrazia vuol dire una cosa o il suo opposto. Volevo mettere l'accento appunto sul significato della parola, una cosa che in realtà mi venne spiegata brevemente da un professore in un fortunato corso che frequentava all'università, che riguardava questa semplice definizione. Spesso si dice la democrazia è governare seguendo l'opinione di tutti, sommandola in somma aritmetica e vedendo quale opzione la preferita dalle persone, quando invece democrazia è governare nell'interesse di tutti, e potremmo anche aggiungere di tutte, perché poi ovviamente anche qua ci sono schemi di potere che si replicano, ovvero se la maggioranza della mia popolazione dice che gli ebrei sono la causa di ogni male, allora io posso uccidere gli ebrei. Ma se considero lo Stato come ente che deve proteggere la sopravvivenza dell'intera collettività di cui fanno parte anche gli ebrei, io non sto facendo il bene degli ebrei o della classe esclusa in questo caso. Sto facendo gli interessi di quella classe che riesce in qualche maniera a determinare l'azione dello Stato e quindi a cancellare un'altra componente della popolazione, perché questo è l'ipotetico, ipotizzabile bene collettivo scelto secondo uno degli schemi, le votazioni, l'acclamazione o la sommossa popolare. Invece democrazia dovrebbe essere governare nell'interesse di tutti, ovvero fare in modo che sotto il proprio dominio, se stabilite le regole collettive che non vogliamo dare allo Stato, che tra l'altro questa cosa qua stasera è emersa, secondo me è molto interessante, che parlare cosa è Stato, cosa vuol dire, cioè lo Stato è un ente che dovrebbe essere imparziale, che gestisce i rapporti tra le classi o tra gli interessi della popolazione, invece molto spesso finisce per essere un corpo a sé stante che fa i propri interessi, dominato da correnti, pensieri, filosofie, eccetera, eccetera. Torno al concetto precedente. Lo Stato dovrebbe essere gestito per fare su regole e su interessi definiti collettivamente, che sono: vogliamo diventare più benestanti, vogliamo vivere più a lungo, vogliamo avere meno guerre, vogliamo morire di meno e nascere di più, vogliamo avere più cibo e meno carestia. Questi dovrebbero essere gli interessi collettivi. E quindi si governa per fare in modo che tutti e tutte possano mangiare di più, tutti e tutti possano avere più figli, case più grandi, vite più confortevoli, più soddisfacenti, più interessanti, più arricchenti, e invece si finisce per fare l'interesse di quella classe che a quel momento riesce in qualche maniera a organizzarsi, preoccupare lo Stato che è lo strumento e farne ciò che vuole. E questa cosa qua per me era abbastanza, cioè è diventata per me fondamentale anche nella vita qui dentro, in uno spazio occupato, dove si vuole provare a creare un tipo di democrazia diretta basata sulla partecipazione costante delle persone. In che maniera noi vogliamo fare democrazia? Nella maniera in cui facciamo le scelte che sono favorevoli alla maggioranza dell'assemblea del lunedì, perché ZAM si trova il lunedì in assemblea e ci piace che tot persone la pensano così, allora fa quello? O scegliamo quello che è nell'interesse dell'intera collettività, pure delle parti che in quel momento magari su quella specifica cosa sono contrarie? E da qui attacco l'ultima parte del mio intervento, che riguarda un pezzettino del come molti centri sociali, di cui noi siamo un esempio, che secondo me funzioniamo più o meno come funzionano altre realtà in giro per l'Italia, e forse anche dell'Europa, chissà se del mondo, che è quel tipo di democrazia, di forma democratica che noi abbiamo, che è il metodo del consenso, che in realtà, se voi lo guardate su Wikipedia, è una cosa completamente diversa da quello che noi facciamo, che secondo me è una cosa che riguarda molto quello che dicevi tu, Alberto, prima. Si usano dei termini, ma non si conoscono veramente quei termini, cosa vogliono dire, perché il metodo del consenso di un centro sociale è un grande mischione di tante cose e non proprio una roba specifica, e forse per questo talvolta non funziona tanto bene, mia personale opinione. Il metodo del consenso vuol dire che noi non andiamo via virtualmente o non decidiamo finché non siamo tutti e tutte convinti che quella sia la cosa migliore, quella sia la scelta collettiva migliore su quell'argomento. Questo vorrebbe dire, secondo il metodo del consenso, che noi continuiamo a discuterne finché non si riesce a trovare una via di mezzo tra tutte le posizioni che soddisfa abbastanza le varie posizioni per fare in modo che tutti quanti e tutte quante si vedano riflessi in quella decisione e quindi possano condividerne pienamente lo sviluppo reale. Poi ovviamente non funziona così, perché molte volte il dissenso viene taciuto, forme di potere non dimostrate, non formali, non dichiarate ci sono ed esistono. C'è anche la banale forma di non ho pensiero riguardo a questa cosa, e per cui a quel punto una persona dice sì, mi piace, va bene, facciamo così, senza averne neppure la minima idea di quello che sta andando a fare. Per cui ecco, questo era un tipo di discussione che riguarda la democrazia nel centro sociale. Dall'altra parte, noi non siamo democratici e ce ne vantiamo, perché per noi il voto non ha senso, perché il voto, e purtroppo ultimamente diventa una battuta a parlarne, perché c'è una forza politica, forse in questo momento la terza forza politica di questo paese, che ancora continua a dire uno vale uno e ogni partecipazione vale, cioè che è per noi una boiata gigantesca. Uno vale d'uno vuol dire che veramente pensiamo che il pace all'anima sua, no, non è vero, spero che soffra all'infinito, Silvio Berlusconi vale quanto me e io valgo come un migrante appena arrivato, che ha appena ricevuto i documenti. È una finzione che noi ci raccontiamo per poterci dire che rispettiamo le idee e le posizioni di tutti, quando è evidente ormai in maniera sempre più palese che ci sono delle differenze gigantesche che il voto non rappresenta in nessuna maniera e che il voto non aiuta in nessuna maniera ad appianare. Perché è evidente che la democrazia, per tutti i motivi che sono stati elencati prima, non ha più quei preconcetti di partenza per fare in modo che tutte quante le persone siano messe veramente nella stessa posizione di poter decidere, informate di quello di cui stanno decidendo, e soprattutto che abbiano poi una reale influenza su ciò che accade. Perché i programmi dei partiti sono tutti uguali, perché i governi tendenzialmente agiscono in una possibilità di azione ristrettissima, perché, e tutto il resto. Qui ecco, io ho cercato di dire alcuni concetti. A questo punto, come prima, siamo ovviamente aperti tutte le domande. Beh, bravissima Miri, vuole fare un intervento. Io nel frattempo mi preparo una domanda per Cateno, per cui avevo un grande curiosità. Allora, in realtà questo intervento lo volevo fare già prima che parlasse Gulli, però la frase finale di Gulli è un asset, che è la questione della bubble democracy, che è una teoria di un professore di filosofia politica della Cattolica che si chiama Palano, che in realtà prende un po' forma da un'altra discussione che è stata fatta negli anni 90 da un filosofo che non mi ricordo personalmente il nome, che era su come è cambiata la politica nel momento in cui l'informazione è stata fatta tramite nuovi mezzi di comunicazione, ad esempio la televisione. E negli anni 90, inizio 2000, si considerava la televisione perché ha cambiato il modo di fare politica. I punti che si affrontavano era, ad esempio, durante le campagne elettorali non ci sono più i comizi di partito, la gente non va più nella sede del partito, del proprio quartiere, per confrontarsi, per parlare, per scambiare idee, ma guarda la televisione. E questo porta a un cambiamento di pubblico, quindi i politici non hanno più come pubblico, possiamo dire, le loro persone di riferimento che si impegnavano ad andare in un determinato posto ad ascoltarli, ma hanno un pubblico molto più vasto, e quindi questo porta ad avere un pubblico molto più generale. E negli anni 90 si pensa che questo ha portato a un cambiamento del modo di fare democrazia, perché abbia portato i politici ad avere dei programmi molto più neutrali, dei programmi praticamente tutti uguali, appunto come diceva Gulli, perché si devono risolvere a delle, cioè si devono rivolgere a delle persone non più così radicali nei loro pensieri, perché non più interessati veramente, perché è molto più facile avere l'informazione, si guarda una televisione, si ascolta un talk, si ascolta un dibattito ed è finita là. E questo provoca anche a uno svuotamento del significato singolo del partito, che in teoria dovrebbe essere il nostro rappresentante durante, all'interno di una democrazia rappresentativa, che appunto, come ha detto Gulli, non rappresenta molto l'ideologia di questo posto, l'idea di questo posto, però in teoria è quello che in modo dominante qua, non qua, nella democrazia occidentale liberale, è una democrazia rappresentativa. E quindi, in teoria, le persone vanno a votare un partito per il programma che ha. In realtà questo non accade più. Si vota una persona, vota un leader carismatico che riesce a darti sicurezza. Attualmente credo che sia così ormai da prima che io nascessi, io ho 20 anni, quindi immagino che ormai è da circa gli anni 90 che va davanti questa cosa. E quindi si svuotano moltissimo i programmi di partito e si pensa ad avere il leader. Quindi non voti più per il Partito Democratico, voti per Renzi. Non voti più per la Lega Nord, voti per Salvini. E questo era un discorso che era fatto sul cambiamento della politica con la televisione. Questo Bubble Democracy considera invece il cambiamento della politica con i social, e in particolare col concetto di bolla, che è il fatto che all'interno dei social, con la questione degli algoritmi, con la profilazione, con i cookies, che fanno Facebook, Instagram, TikTok, ma banalmente anche tutto il tuo motore di ricerca, tu ricevi le informazioni per cui sei più profilato. Quindi se io, per dire, il mio social sa che seguo molti divulgatori e divulgatrici sulla questione della parità di genere, del femminismo, mi propongono degli articoli di giornale, delle analisi che sanno che vanno a interessare, perché così in modo si fa like, si fa algoritmo, eccetera. E porta alla questione del: se tutte le persone hanno sui loro social delle informazioni profilate per loro, non è più come nella televisione, che tutte le persone sentono lo stesso programma televisivo, che sì, è spersonalizzato perché non stai appunto andando nella sede del tuo partito, però tutti stanno ricevendo la stessa informazione, buona o cattiva che sia rispetto al servizio pubblico, però tutti ricevono la stessa informazione. Così invece io ricevo un'informazione, Gulli ne riceve un'altra, Giulio ne riceve un'altra, perché ognuno sui social ha le informazioni per lui. E questo è fatto, abbiamo visto ad esempio con tutta la questione del Cambridge Analytics e di come le elezioni di Trump sono state ad esempio pilotate, del fatto che ha portato una enorme polarizzazione, perché chi aveva paura di una determinata cosa gli venivano mandate solo informazioni su quello, quindi dici oh mio Dio, la situazione sicurezza è atroce, nel confine con il Messico non è più gestibile, voto di qua. Polarizzazione dell'informazione. E la cosa che a me ha stupito molto è che si viene portato il concetto di post-verità, quindi il fatto che non c'è più una... è come se, ricevendo soltanto informazioni di un certo stampo, tu non abbia la capacità di informarti veramente, e quindi quando vai a votare, o quando fai politica, o quando fai una discussione, non sei più informato con tutti gli elementi a disposizione. E quindi arrivi in una cosa di post-verità, nel senso che è vero per te, però può essere non vero per lui, non vero per lei, perché dipende dalle informazioni che hai ricevuto. E c'è un dibattito assurdo che c'è durante le elezioni di Trump nel 2016, in cui c'è un repubblicano va a fare questo talk che dice i tassi di criminalità durante Obama sono aumentati, e la presentatrice dice no, in realtà tutti i dati dall'FBI alla CIA così dimostrano che sono diminuiti. E lui fa ma le persone si sentono meno sicure, quindi questo significa che le città sono meno sicure, anche se i dati dimostrano il contrario. Secondo me il fatto che siamo arrivati in un momento tale in cui il concetto di democrazia è così svuotato da il considerare che non c'è più una vera condivisione dell'informazione, una condivisione dei dibattiti, una condivisione anche dell'educazione che si può fare rispetto a una tematica, da rendere impossibile il dibattito, perché la polarizzazione informata, tu non ritieni che ci sia un'informazione vera o falsa, ritieni che soltanto la tua informazione sia quella legittima e quella vera, che è impossibile avere un confronto. E è una problematica estremamente aperta, non ho una soluzione, però sia il discorso che faceva Gulli, sia il discorso che faceva Alberto mi hanno fatto pensare a questa situazione. Niente, fine dell'intervento. Questa faccenda della personalizzazione dei dati ovviamente è vera, però secondo me, sono brevissimo per dare spazio agli altri, secondo me si corre il rischio di pensare che così ci arrivino dei contenuti che sono intrinsecamente neutri. E non è così. E non è così. Perché di per sé i contenuti possono essere personalizzati e può arrivare una cosa diversa a Gulli, una cosa diversa a Jacopo, una cosa diversa a me. Ma il problema è che la gestione di questi dati, anche se gestita impersonalmente da algoritmi, da software, così, non è ideologicamente irrilevante, perché risponde alle logiche del mercato. Noi dobbiamo chiederci in questo contesto qual è la logica sottostante a questo tipo di mercato, qual è la logica sottostante a questo tipo di tecnologia, ed è una logica di mercato assolutamente capitalista. Assolutamente capitalista. Secondo me lì si dovrebbe andare a parare se si vuole scardinare questo tipo di logica di mercato, altrimenti stiamo lì a interrogarci e no, sanno quando esco di casa, e no, sanno che sono cose che possono avere una loro importanza, ma non sono decisive quando noi affrontiamo questo tipo di realtà. Il buon Pasolini diceva che la realtà va ideologizzata. Questo tipo di realtà, che è la nostra realtà digitale, va ideologizzata perché risponde a un certo tipo di ideologia, che è l'ideologia del mercato, ancora una volta, che non è mai neutra, anche quando pensa di proporre contenuti neutri, penso io. Mi dispiace riportare indietro la conversazione da questo argomento, che secondo me è molto interessante. Io volevo tornare a parlare un attimo di democrazia e nel farlo volevo parlarne... è per quello che non ha funzionato finora. Volevo... Senti come va. Adesso la grande. No, volevo parlarne allacciandomi sia alla questione che proponevi tu in fase introduttiva quando parlavi della perversione del significato originario delle parole, e secondo me si connette anche alla prima domanda che poneva Cateno, cioè quella sul perché oggi ci preoccupiamo di cosa facessero 2500 anni fa ad Atene. Dico questa cosa perché, per quello che sono i miei studi di democrazia ateniese, democrazia è una parola che gli ateniesi, almeno in pubblico, non hanno mai utilizzato, perlomeno nel V secolo. Democrazia, gli ateniesi chiamavano il proprio sistema di governo isonomia, cioè l'uguaglianza di fronte alla legge, che si fondamentalmente si opponeva a quello che era precedentemente tutte le leggi, che erano invece leggi di disuguaglianza, cioè per ceto. A seconda del ceto, come nel Medioevo, avevi dei diritti e la disuguaglianza di fronte alla legge garantita dal sangue. Ad Atene, quando si viene introdotta l'isonomia, nessuno parla di democrazia, cioè di potere del popolo, si parla di uguaglianza di fronte alla legge, che era già una bella cosa parecchio innovativa. Democrazia è una parola che inventano gli oligarchici, quelli che odiavano la democrazia, ed è una parola dispregiativa. Cioè loro, nei simposi, quando si radunavano fra di loro a sputare sul collo del popolo, dicevano la democrazia, come noi potremmo dire il fascismo, come noi qua dentro diremmo il fascismo, con la stessa accezione. Questa cosa è importante perché? Perché c'è un significato semantico di demos che a partire dal V secolo comincia ad assomigliare al modo in cui noi utilizziamo la parola popolo. Demos significa popolo, popolazione. Noi utilizziamo, quando noi diciamo il popolo, non ci riferiamo né agli Agnelli né Berlusconi, suppongo, no? Tendenzialmente, perlomeno quando ne parliamo in maniera informale. La stessa cosa succede nel V secolo ad Atene. Il demos e antidemocratici, lo dicono chiaramente, ma lo dice anche Aristofane, sono i pezzenti, sono i morti di fame. Non erano molto politicamente corretti, quindi non li chiamavano i poveri, li chiamavano i morti di fame, intendendo dire che facevano schifo materialmente e spiritualmente. Ok? E quando gli oligarchici parlavano di democrazia, parlavano di un governo dei morti di fame, cioè nel senso degli schifosi, della gente che fa schifo, della gente che non capisce niente, che non sa parlare, che non sa fare nulla e che non è buona a niente, ok? Che sono solo poco più di schiavi. Questa cosa è importantissima perché Aristotele nella Politica, quando definisce la democrazia, dice una cosa che, se noi la andiamo a dire oggi in un talk show in televisione, non ci vedete più in televisione. Perché Aristotele dice, qual è la differenza fra democrazia e oligarchia? Il governo della maggioranza? Niente affatto. La democrazia è quel sistema di potere in cui comandano i poveri. contro i ricchi. E se ci fosse, Aristotele dice, se esistesse una polis in cui i poveri sono la minoranza e i ricchi la maggioranza, tra parentesi Aristotele ama dire, era molto ironico secondo me Aristotele, ama dire non esiste nessuna polis di questo tipo, i ricchi sono sempre pochi, ma se esistesse una polis in cui i ricchi sono la maggioranza, i poveri la minoranza e governano i poveri, è ancora una democrazia, anche se sono la minoranza. Non esiste la possibilità oggi di andare in televisione e dire che la democrazia è il governo dei poveracci. Se tu vai in televisione a dire che la democrazia è il governo di quelli che sono rimasti indietro, dici una eresia, d'accordo? Per noi la democrazia è il governo della maggioranza nel senso in cui, mi pare lo dicessi tu, no? O no, forse l'ultimo intervento tuo era, scusami, cioè quello del chi è riuscito a convincere tutti meglio, è il senso della sofistica, è quella roba che criticavano i vari Tucidide, che comunque erano oligarchico, eccetera. Cioè, la democrazia ad Atene, la parola democrazia era il governo dei morti di fame, è la traduzione corretta, perché la legge ateniese era l'isonomia, l'uguaglianza di fronte alla legge, per cui la parola democrazia, ed è per questo che è il senso della perversione, democrazia è il governo dei poveri, non è il governo del popolo, è il governo di quelli che non hanno di per sé il potere, perché se non c'è la sanità pubblica e io c'ho i soldi, il potere ce l'ho lo stesso di curarmi. Il problema è che non hanno il potere quelli che da soli il potere non se lo possono permettere. E quindi la democrazia è dare il potere a quelli che non ce l'hanno e non dare il potere a tutti. È chiaro che poi quando lo dai a quelli che non ce l'hanno non è che vai a sparare in faccia a quelli che prima ce l'avevano, purtroppo, ma si può anche fare. I primi ministri trovati nel bagagliaio della macchina comunque, adesso, però, adesso però. Non mi strappate lacrime, però... Ecco, io volevo solo precisare questo, ed è proprio importante secondo me perché il modo in cui vengono pervertite le parole, noi usiamo la parola democrazia in un modo che gli ateniesi non capirebbero, innanzitutto perché gli ateniesi non la utilizzavano i vari Antifonte, la utilizzavano i Crizia, la utilizzava quella gente lì, la gente che i poveri li schifava. E poi, soprattutto, per noi non esiste l'idea per cui la democrazia sia dare più potere a chi ne ha di meno. È mettere tutti uguali, e non siamo tutti uguali dal punto di vista della nostra capacità di agire. Come diceva giustamente lui, se mi viene a dire che la famiglia Berlusconi ha il mio stesso potere, mi spancio. Niente, questo era il mio intervento. Infatti, allora, su che cosa si fa dopo, ovviamente le soluzioni, chi ha fatto il primo intervento, comunista marxista, e quindi la questione dello sparo in faccia... sarebbe d'accordo, no? E... ci sono diversi modi di concepire il dopo. Probabilmente il problema del comunismo è che non ha concepito mai abbastanza bene il dopo, che si è sempre incagliato nella rivoluzione, nella dittatura del proletariato, però la lasciamo stare. Una cosa sui numeri. Diciamo che ovviamente la democrazia, la parola democrazia è dispregiativa e non l'avevamo detto, è fatto benissimo a ricordarlo. Se voi leggete Aristotele e Platone, cioè, è proprio questo il concetto, quella roba lì. Dicono, poi ci sarebbe la democrazia, come noi potremmo dire, poi ci sarebbe la dittatura, stesso modo. E, io credo che il massimo che noi, a cui noi possiamo aspirare, ma io ovviamente sono di convinzione più socialista, non socialista del Partito Socialista Italiano degli anni Ottanta, non sono, apprezzo la critica comunista ma non sono comunista, e una maggiore politicizzazione e una forma di rappresentanza che rimane ma poi un modo di fare politica a livello municipale che è completamente diverso. Così intendo, io penso che l'unica soluzione sia rivoluzionare come viene gestita la politica nei piccoli comuni, su una soglia sotto i 15.000-20.000 abitanti. Perché il significato, la democrazia non è mai stata staccata dal piccolo numero. Cioè gli ateniesi non capirebbero neanche noi se noi dicessimo siamo una democrazia di 60 milioni di abitanti, o l'India un miliardo. Cioè proprio saremmo due marziani che tentavano di parlarsi. E quindi io penso che il primo passo sarebbe proprio chiedere una rivoluzione nell'agire politico cittadino. Vuol dire che il Consiglio Comunale non è più uno strumento che va bene, noi dobbiamo inventarci nuove forme più simili a cosa facevano ad Atene, nei comuni piccoli, sì. In città come Milano, infatti perché ci sono un minimo arrivati, hanno invitato i municipi. I municipi però, come vedete voi, sono svuotati completamente. E perché sarebbe inconcepibile un'assemblea, una forma più partecipativa su numeri troppo grandi, si ribalta nella comunicazione, nella propaganda, diventa comunicazione, cioè l'agire democratico e tutt'uno con i piccoli numeri. Un'ultima cosa sulle parole che tu dicevi, se sul dopo poi un comunista ha un'idea, un anarchico un'idea, un socialista un'idea, c'è da dire che la cosa più importante sarebbe dire le cose come stanno, dire che siamo contro il neoliberismo, il liberismo, il liberalismo, si può fare anche qua un'ora di lezione, ma quella roba lì, e cominciare a chiamare le cose col proprio nome. Infatti vi consiglio un libro bellissimo di Marco De Ramo, che è un sociologo, che si chiama Dominio, che parla del fatto di come la battaglia ideologica è stata stravinta dal neoliberalismo dal 73 in avanti, e dice proprio questa cosa: noi siamo messi talmente male che noi non possiamo neanche dire più la parola poveri, cioè tu devi dire meno abbienti, sfortunati, non puoi neanche dire ricchi, non puoi dire ricchi contro poveri, non puoi dire in televisione la democrazia è il governo dei poveri, no? E questo vale per tutto, per cui io penso che proprio terra a terra le cose per la strada è ridare dissenso alla democrazia, riempirla. Cioè a livello comunale bisogna completamente rivoluzionare tutto e avere altre forme. E poi bisogna vincere la battaglia delle idee. Loro l'hanno vinta negli ultimi 50 anni, adesso dovremmo vincerla noi. Cominciare a dire le cose come stanno, e purtroppo, come abbiamo visto l'altra volta, se poi Sala, il sindaco di Milano, scrive un libro che si chiama Società 2 punti per azioni, che è il libro che lui ha scritto, no, nel 2021 per dire la sua visione, diciamo, noi dobbiamo ricominciare a chiamare le cose col loro nome, a dire per cosa siamo contro, per cosa siamo pro, e a dirlo chiaramente. Sì, io volevo dire giusto un paio di cose. Hai ragione tu quando hai, insomma, rimarcato il carattere, diciamo, negativo con cui nella letteratura greca ci si rifaceva, appunto, cioè si parlava della democrazia. Però questo è soprattutto perché buona parte delle fonti letterarie che noi sono arrivate sono di parte aristocratica, quindi chiaramente nei circoli aristocratici, giustamente come diceva lui, scusami, non mi ricordo il tuo nome, Natale, come diceva Natale, la democrazia era indicata come il governo dei poveri, e quindi questo è stato, come dire, un elemento che a posteriori è stato poi ripreso da tutte le classi dirigenti dei secoli a seguire all'interno diciamo del quadro politico europeo, comunque occidentale in senso lato, e questo è, come dire, il fatto di denigrare il governo dei poveri è andato avanti per secoli ed è stato, come dire, si è iniziato a riabilitare solamente nel Settecento, nel periodo delle rivoluzioni francese, americana, come dire, in un periodo in cui appunto cambiavano molte cose, cambiava la concezione di cittadino, e come dire, e quindi anche lo stesso discorso del governo del popolo veniva ripreso in una chiave positiva, ma anche critica, dal momento che gli stessi, diciamo, intellettuali della rivoluzione francese come Sieyès, Condorcet e quant'altro, così dicevano: sì, il modello ateniese, come dire, è stato un esempio nella storia di allargamento di conferimento del potere a chi non ce l'aveva, però appunto oggi non è riproponibile, soprattutto perché secondo loro non avevano concepito diciamo i diritti dell'uomo e del cittadino, che invece avevano fatto durante la rivoluzione francese, e tuttavia questo significava che l'esperienza ateniese andava ripresa e allargata secondo loro, e che la democrazia potesse essere un laboratorio, uno strumento che potesse essere, diciamo, utilizzato in contesti specifici della rivoluzione, quindi ad esempio nei contesti cittadini ristretti, quindi non che si potesse condurre tutta la rivoluzione attraverso un'unica assemblea, ma che si potesse delegare varie funzioni amministrative, diciamo, ad esempio in maniera più locale, e quindi usare il modello ateniese soprattutto come un modello paradigmatico e non come un'ideologia di partenza. Infatti questo che cioè bisogna insomma focalizzare, secondo me, il fatto che la democrazia non è un'ideologia costruita a tavolino, ma è nata da un'esperienza che oggi non esiste più, è stata praticata da classi, società, popoli che oggi non esistono più, è passata di mano in mano di vari tipi di società diversi che l'hanno adattata alle loro esigenze, bla bla bla, e qua potrei fare insomma chissà che discorso per spiegarlo nel dettaglio, però la sostanza è quella, che alla fine è un concetto che può venire sempre riformulato in tutte le maniere che poi risultano funzionali a quelli che sono soprattutto i componenti della classe dirigente, perché se fino alla rivoluzione francese non se ne parlava, o meglio fino al XVIII secolo non se ne parlava, poi se ne è ripreso a parlare in chiave positiva durante il Settecento, e poi di nuovo con la restaurazione, bam, basta, di nuovo il discorso della democrazia veniva, come dire, tacciato all'interno soprattutto dei circuiti accademici, delle classi colte. E questo è successo proprio perché il ricambio della classe dirigente fino a un certo punto non trovava funzionale quel discorso. Questo è cambiato solamente nel secondo dopoguerra, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando insomma la democrazia è diventata un po' una marca per indicare insomma, come dire, dei soggetti politici che intendono allargare la gestione del potere. Però questo insomma per ribadire il fatto che la democrazia non è come il socialismo scientifico, non è stato pensato in un preciso momento, e cioè è nato da una pratica sociale, da diverse spinte, tra le quali anche la lotta di classe, ma non soltanto da quella, e che nel corso dei secoli è stata rielaborata sempre in base a nuovi elementi. Spero anche un po' comodità. Allora, io volevo tornare anch'io alla parola democrazia, però fermandomi su un aspetto, non tanto la polivalenza, ma l'ambiguità, che è venuta fuori molto bene. Partendo dal presente, quante volte si sente dire in politica, nei dibattiti, ma abbiamo dei modelli di democrazia? Gli Stati Uniti sono il nostro grande modello perché nasce la democrazia, o la Gran Bretagna, l'Inghilterra. E mi veniva da pensare, già da ragazzino, gli Stati Uniti, il modello di democrazia, avevano la schiavitù fino un secolo e mezzo fa, la segregazione razziale fino a 70 anni fa, e ancora adesso non è che la passano molto bene. Inghilterra ha una Camera che è stata eletta a diritto ereditario fino a 20 anni fa, però è la democrazia. L'Italia, una nuova democrazia con una Costituzione una delle più belle del mondo, però negli ultimi anni è un sistema maggioritario che potrebbe permettere il fatto di avere una maggioranza di popolazione, però non ha rappresentanti, perché nella maggior parte dei collegi vincono quelle che in quel collegio sono maggioranze, ma nella popolazione nazionale sono minoranze. E quindi c'è non solo una polivalenza, c'è un'ambiguità di fondo, che ha portato questa ambiguità anche nel dibattito della stretta attualità. Andiamo a Gaza, indipendentemente da come la possiamo pensare rispetto a tutto quello che sta succedendo, Israele è democratico, ma Netanyahu voleva fino all'altro ieri eliminare la Corte Suprema, che sulla base della moderna Costituzione democrazia divide i poteri, li separa. Gaza non è una democrazia, ma ha vinto Hamas, ha vinto le elezioni. Poi possiamo fare quello che vogliamo, ma ha vinto le elezioni. E il presidente dell'autorità nazionale palestinese non fa le elezioni in Cisgiordania perché potrebbe perderle, e 20 anni che non le fa. Però noi parliamo di democrazia. E torniamo all'origine etimologica. Cosa vuol dire democrazia? Governo, potere del popolo. Ma del popolo in che senso? Mi chiedo io. Dal popolo e basta? Dal popolo e basta in una dimensione verticistica? C'era la democrazia anche con Mussolini, ogni tanto faceva votare. 99% di consenso, 98%, e non si faceva, e c'era lui lì. E la dimensione sempre più verticistica di questa struttura democratica, apparentemente democratica, ha portato, secondo me, a questo sfacelo. Già la democrazia nasce sempre, l'abbiamo visto bene in questi interventi, quando c'è un sistema economico capitalista o comunque con un'attività pseudo-capitalista. Io mi rifaccio molto a quello che hai detto tu all'inizio. Gli opliti acquistano potere politico perché vanno in guerra. La democrazia si inizia a diffondere ad Atene, ma anche nelle colonie a Mileto, perché si diffonde uno scambio commerciale profondo. Faccio una pillola di riferimento filosofico. Ho lavorato in questo, ogni tanto mi ci cado. Eraclito parlava, vedeva il mondo come totale movimento, a differenza di Parmenide che lo vedeva come qualcosa di fisso, famoso Pantarei, che forse non è neanche di Eraclito, perché viveva in una colonia in cui lo scambio commerciale era profondi, c'era molto movimento commerciale, economico e anche di persone. E si parla e si vede la società in maniera diversa, in movimento, dinamica, che è il capitalismo, che dovrebbe prevedere dinamismo, ma poi quel dinamismo prevede qualcuno in alto, qualcuno che sta in basso e l'altro non lo vede quasi mai. E torniamo a quello che abbiamo come conseguenze anche sull'informazione. Dagli anni 90 in poi, quando ormai la lotta di classe è stata già persa da un pezzo in Italia, non siamo più persone che partecipano alla vita democratica. La democrazia, tra le tante parole che dovrebbe avere come corrispondenza, è partecipazione, secondo me. La parola è partecipazione. Nei soviet, nei consigli di fabbrica, non li chiamo ancora consigli di municipio, mi piace ancora chiamarli consigli di zona. Fino a metà anni 80 erano partecipati, poi sono trasformati in qualcos'altro, anche quelli più verticistici, e si è persa anche la partecipazione. Adesso la democrazia è televisione, social, è comunicazione. Dove cosa succede? Che 1, 2, 3, 5 parlano e gli altri cosa fanno? Gli spettatori applaudono, non applaudono, ma non è quella democrazia, non è dire sì o no, non è schiacciare il pulsantino sì o no, è partecipare, contribuire, capire se quello che sto dicendo io è in grado di, non di vincere il dialogo, ma di confrontarsi con l'altro e magari capire qualcosa dall'altro, magari vedere che sì, io ho convinto di questa cosa che avevo in mente, ma quell'idea che mi ha detto che ho appena sentito non è tanto una cazzata. Magari è lì cercare di creare il consenso, che è un paradigma totalmente diverso. Poi magari potrebbe essere un modello ideale il consenso, però è una pratica da poter praticare, appunto. Mentre adesso abbiamo semplicemente persone sedute fino a qualche tempo fa davanti al televisore, adesso davanti a uno schermo, profilate, che anche questo, indipendentemente poi dall'efficacia della cosa, non è il massimo della tutela della persona. E cosa succede? Che non solo non partecipiamo più, ma addirittura abbiamo le informazioni che altri vogliono che noi abbiamo. Finisco con un breve riferimento. Io insegno e poco tempo fa, parlando con i miei studenti, chiedevo, mezzi di comunicazione, quanti giornali leggete? Non al giorno, in un mese? Zero. Quante volte guardate la televisione al giorno? 15-20 minuti, pochissimo. Stiamo tanto in rete, ovvio, ci mancherebbe. E perché scegliete la rete, non la televisione? Perché in televisione i canali sono 5, 10, 20, 50, ma sono quelli. In rete scelgo io quello che voglio. Allora ho avuto un dubbio, domanda: ma quante ore passate sul web e quante sui social? 20-30 minuti sul web e sui social ore. Perché abbiamo l'informazione che vogliamo. E poi gli ho detto, scusate, ma sui social l'informazione la scegli tu, ti arriva, fai, scrolli, anzi, neanche la razionalità di dire questa mi interessa, perché il meccanismo è talmente veloce che è involontario, scrollo perché c'è l'impatto, quindi gli altri scelgono per te. E sono rimasto un po' lì a pensare, forse è vero, anche l'informazione che dovrebbe essere la base per fare politica, oltre alla condizione in cui uno vive, è totalmente sfalsata da meccanismi capitalisti fino al midollo, che ci hanno reso non solo spettatori, ma spettatori di informazioni che sono talmente impregnate su alcune tendenze e alcune specificità che ci distorgono e arriviamo alla post-verità. E quindi condivido il fatto che bisogna tornare sui territori e nel micro, ma l'impresa è ardua. Possiamo vincerla, perché la speranza è sempre... Però in questo momento il meccanismo che si è creato è imponente. La questione è abbastanza, cioè di fatto drammatica, perché tu devi ribaltare una sconfitta che è durata 50 anni e non hai più negli strumenti, non hai gli spazi, non hai gli spazi, non hai gli strumenti, non hai elementi quasi, no? Sai che Gramsci, quelle cose famose che diceva, studiate perché abbiamo bisogno di organizzatevi, non abbiamo niente di tutto questo. E al grado zero credo che l'unica cosa che si può fare è fare parlare in un certo modo, quindi dire, cercare di essere più, dire più apertamente possibile e come stanno le cose, e non è sinceramente tempo più di compromessi a livello politico, nel senso che un partito come il PD, che è mezzo liberale, mezzo socialista, voglio dire, nel 2023 con le disuguaglianze che ci sono, magari non negli anni 90, Sì, beh, sì, nelle loro intenzioni, così. Vabbè, c'è qualcuno che è socialista dentro il PD, non è vero, qualche politico, qualcuno. E poi è proprio la questione dell'agire, no? Che Hannah Arendt qua, Vita Attiva, libro stupendo, quella che tu ci chiami partecipazione, Hannah Arendt dice l'agire intende l'agire politico, quello che stiamo facendo noi è agire, nel senso che noi parlando, mostrandoci, confrontandoci, usiamo una parte come se il nostro essere avesse più facce che è nascosta, perché poi di fatto noi cosa siamo? Noi siamo consumatori e siamo lavoratori. Cioè, questa è la realtà delle cose, cittadini, nessuno è cittadino. Questo è un atto di cittadinanza, ma quando il lunedì sera alle 9 tutti stanchi, e secondo me bisogna cominciare a alzare la posta sul tempo, sul lungo periodo, e fare delle cose sul medio periodo. I piani sono per forza due. Cioè, la prima cosa da fare sul lungo periodo è, se uno lavora 8 ore al giorno non può essere, come dicevano loro, i cittadini venivano pagati, uno non può essere cittadino. E in questo, soprattutto in questa fase storica, bisognerebbe cominciare a dire, lavoriamo 6 ore al giorno, anche 4, sì sì, ma cominciare a porre questi temi, ma non perché si lavora meglio, perché dopo vedi Repubblica, il sito dice, sì perché sono più produttivi, no, non ci siamo capiti, perché c'è un altro lato, no, che ci manca, quindi cominciare, e sul lungo periodo bisogna cominciare a dire queste cose fortemente. Io penso che il comunismo stretto, se non si è fatto nel 1919, non si è fatto negli anni 60, non lo faremo mai oggi, cioè nel senso, secondo me su cosa si deve fare bisogna essere chiari, perché tanto un atto singolo di rivoluzione, quando la classe operaia, una classe operaia che non esiste più, quasi più, io non penso sia controproducente stare qua a aspettare una rivoluzione. Poi, tenendo punto che anche qua l'Arendt, la pluralità è infita, e ovviamente il terrorismo, diceva, tutti quelli che non pensano come me li ammazzo, ma il fatto che c'è un pluralismo, e noi dobbiamo giocare sulle relazioni di potere, non sterminare tutti quelli che non la pensano come noi, vincere la battaglia ideologica, non sterminando gli altri, ma come stanno vincendo i ricchi su di noi, ribaltare. Sta lì la partita, secondo me. Io volevo porre l'attenzione anche su un altro dato che secondo me è interessante e peculiare del sistema in cui siamo oggi, e cioè della deprivazione dell'immaginario. Se noi pensiamo alle istituzioni che teoricamente dovrebbero essere democratiche di prossimità, adesso mi veniva in mente perché si è parlato dei municipi, dei comuni, ma secondo me una delle cose più sconfortanti anche del periodo in cui viviamo è proprio il fatto che ci viene fornita un'illusione di intervento politico. Questo secondo me è particolarmente evidente da alcune notizie che sicuramente tutti avremo visto, no? negli ultimi anni, no? Di comuni che cercano collaboratori per fare anche funzioni qualificate, ma li cercano gratuitamente. E lì per lì, vabbè, ci incazziamo, diciamo, ma minchia, cazzo, com'è possibile che cerchi, non so, un responsabile della comunicazione e pensi che lo faccia per volontariato perché lo permette nel curriculum? Minchia, ma ammazzati. Però questo nasconde, secondo me, un ulteriore elemento tragico di fondo, e cioè il fatto che istituzioni che dovrebbero essere di prossimità democratica sono sistematicamente sottofinanziate. Questo stesso dinamica si è avuta anche per le regioni, si è continuata per le province, scusate, si è continuate a definanziarle, a deprivarle di funzioni, finché tanto poi si è detto ma non serve un cazzo, sono inefficienti, togliamole. Beh. Stesso discorso in realtà c'è adesso per molte regioni che sono perennemente alla ricerca di fondi a livello statale per svolgere quelle funzioni che gli sono state attribuite 20 anni fa, ma sono costantemente sottofinanziate rispetto a quello che dovrebbero avere per far funzionare effettivamente tutti gli ingranaggi e le varie funzioni istituzionali che gli sono date. E quindi alla fine il sottinteso anche qui è vabbè, ma quindi queste istituzioni a cosa servono? E poi a livello centrale questa cosa secondo me è diventata ancora più manifesta quando c'è stata l'ultima riforma costituzionale, dove a livello sistemico bisogna dare atto che l'ideologia neoliberista veramente è riuscita nel risultato migliore a cui poteva aspirare. È riuscita a convincere una popolazione che dal momento che avere tanti suoi rappresentanti costa, allora conviene tagliarle. Cioè è veramente la quadratura del cerchio dal loro punto di vista. Riuscire a convincere la popolazione che tutto sommato sia meglio avere meno deputati, avere meno rappresentanti, poi vabbè, la democrazia rappresentativa è una farloccata, un baraccone, però diciamo, a prescindere da questo ragionamento, quello che emerge è veramente l'assurdo. No, costa troppo e allora bisogna tagliare i rappresentanti. Ma chi se ne fotte? Cioè, non so come dire. Ma poi perché perché non ci sono mai sti cazzo di soldi? No? Perché poi la domanda viene spontanea. Cioè, adesso non so se avete sentito, prima è stato accennato la prossima legge di bilancio di 20 miliardi e sconta un fardello di 100 miliardi che sono spuntati letteralmente dal nulla di interessi sul debito, no? Che soffocano qualunque tipo di iniziativa in tal senso. Però alla fine uno si chiede, ok, ma allora i municipi non hanno soldi perché non ricevono i fondi dai comuni, i comuni non hanno soldi perché non ricevono fondi dal governo centrale, così come le province, le regioni. Sì, vabbè, ma il governo centrale perché non ce li ha sti soldi? La cosa che io trovo più sconfortante appunto da questo punto di vista è che non solo ci dicono che non ci sono soldi per cambiare la situazione, posto che comunque probabilmente all'interno della democrazia rappresentativa organizzata ancora sullo Stato-Nazione dell'Ottocento comunque farebbe cagare, perché poi dobbiamo dirci la verità, un Parlamento per un territorio che comunque in senso assoluto è vasto come l'Italia, ma lo stesso discorso si può fare per la Germania, per la Francia, eccetera, non potrà mai essere veramente prossimo ai bisogni e alle necessità che ci sono a livello locale. Secondo me questa è una cosa che dovrebbe essere abbastanza, la dovremmo dire abbastanza chiaramente. Cioè, non è possibile che a livello centrale si possa veramente arrivare a delle soluzioni che possano essere condivise e che possano essere delle risposte alle esigenze di popolazioni considerate nel loro piccolo, no? Bene, ma all'interno di tutto questo ci viene detto, quindi ogni volta che si prova a dire, adesso non so, a fare qualunque tipo di misura che cerchi di contrastare la povertà, che non ci sono soldi. Poi però per comprare armi, per finanziare guerre, piuttosto che, non lo so, per aiutare banche dal fallimento dopo che ci si sono messe fondamentalmente da sole, per quello i fondi ci sono. Quello che è la mancanza di immaginario secondo me è proprio questo, cioè quello di creare un'illusione del fatto che le istituzioni democratiche fondamentalmente alla fine sono più che altro un costo perché ormai non servono un cazzo, come alla fine sta succedendo per tutti i servizi pubblici essenziali, dalla sanità ai trasporti. Cioè prima li si definisce, si rende inefficienti, poi si dice che non funzionano e si privatizza. Cioè sempre lo stesso discorso, no? La cosa sconfortante è quella di vedere questa dinamica che viene in totale malafede perpetrata anche per quanto riguarda le istituzioni politiche, e poi ti vengono a dire che però sei nel migliore dei mondi possibili. Io qualche giorno fa mi sono soffermato, no, su questa cosa, no, che è alla fine un eco thatcheriano, no? There is no alternative. Allora uno si gira, esce di casa, ci impiega, non lo so, un'oretta per fare 10 km in città con i mezzi pubblici, cerca di prenotare una visita e gliela danno l'anno dopo, quando l'urgenza ce l'hai a 2 settimane, porca la madonna, e dice, minchia, ah, se questo è il migliore dei mondi possibili, conviene che allestisco la trave, no? Mi ci appendo. No, okay. Il dubbio sale, no? Ecco, questo secondo me è la cosa peggiore. Il fatto di continuare a soffocare qualunque tipo di alternativa tramite degli stratagemmi che ti fanno credere nell'essere nel migliore dei mondi possibili, quando in realtà semplicemente sei nel migliore dei mondi possibili semplicemente perché sono state soffocate tutte le alternative. Allora per forza che in senso assoluto sei nel migliore dei mondi possibili perché non hai parametri di confronto, cioè ti stanno soffocando. Quello che secondo me quindi è un elemento tragico di fondo, però secondo me può essere approcciato in maniera diversa, no? Appunto, o allestendo la trave, che comunque lì, cioè, come soluzione di ultima istanza ti guarda, ce l'hai lì, però c'è anche la possibilità di dire che però alla fine, cioè, ci si può anche essere rotti il cazzo fondamentalmente di una retorica che alla fine ti costringe in pensieri, in retoriche che alla fine non sono rispondenti alla realtà. Ma la cosa addirittura che secondo me è più sconvolgente è che tra l'altro questa cosa è ormai abbastanza chiara. Allora, mettendo un attimo da parte come sia stato possibile che a gestire un'istituzione come la Banca Centrale Europea ci sia finita Christine Lagarde, che io sono convinto che tutti qua si ricorderanno essere stata la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, cioè quello che al tempo era capo della Troica durante la crisi della Grecia. Cosa? Esatto, ha messo la trave alla Troica e poi i greci alla fine, con il referendum vinto ma che non è stato seguito, ci hanno legato la corda e si sono appesi. Cioè in realtà è stato Tsipras in particolare, non i greci, poverini. Ok, quindi a parte questo dato che rimane sconvolgente, ma ormai, cioè, nelle sorprese uno poi si abitua e dice vabbè, sì, minchia, l'ultima. Però la cosa interessante è che le istituzioni monetarie e bancarie a livello internazionale, quindi la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, hanno dei loro centri studi e sistematicamente, ma questa cosa ormai è uscita fuori anche nella Banca Centrale Europea, è uscita fuori anche da un recente studio di Banca Italia dell'anno scorso, OIBO hanno scoperto che le misure di austerity su cui avevano premuto con così tanta convinzione hanno creato le disuguaglianze sociali che persino in un'ottica capitalistica sono controproducenti. Perché la creazione di disuguaglianza crea in realtà povertà perché indebolisce il sistema economico di un paese e impedisce la crescita. Detto ciò, le misure che sono state e che vengono tuttora intraprese per gestire le crisi finanziarie a livello internazionale, penso all'Argentina che tra l'altro in questi giorni sta affrontando un ballottaggio, no? Tra un, non saprei come definirlo, un soggetto anche lì uscito dai peggiori incubi e dall'altra parte l'ex ministro dell'economia che invece è ancora un rappresentante del peronismo progressista. Quindi, anche lì, vabbè, però, sì, taglio, assolutamente. No, questo per dire che nonostante appunto che i loro stessi centri studi abbiano dimostrato che alla fine queste misure finiscono per essere controproducenti, vengono fatte lo stesso. Quindi, secondo me, quello che innanzitutto noi dovremmo fare è, uno, prendere atto del fatto che there is no alternative non è assolutamente vero, ma se siamo qua già lo sappiamo, ma poi anche incazzarci del fatto che si tenta continuamente di essere presi per il culo. Cioè secondo me a un certo punto anche l'elemento incazzatura dovrebbe iniziare a far parte della riflessione politica, ma consapevole, proprio dire, minchia, ma mi state mentendo in maniera plateale e credete, pensate anche che io ci debba credere ancora. Scusate se mi sono dilungato. Oh. Presentammo un libro divertente che era la politica della rabbia. Se lo cercate sul sito archive, cercate la radio ZM, trovate il podcast di quella volta che fu interessante perché parlava appunto di queste cose. Allora, io ovviamente ringrazio chiunque ha partecipato stasera. Vi viene voglia di farlo, ma non lo vorrei fare perché poi quando si arriva alla fine di queste discussioni o si prova a buttarla sullo stile pescivendolo, no? E ci vendiamo noi come centro sociale, come luogo dove sicuramente potete venire per incamerare la vostra rabbia e cercare di lottare per il futuro, ma mi sembra di cattivo gusto e non è nemmeno tanto vero. La cosa che secondo me è più realistica è dire, se volete, veniva detto prima, lunedì sera che fatica arrivare alle 8 di sera stanchi dopo 8 ore di lavoro, quindi chiede giustamente una riduzione orari di lavoro assolutamente necessario per potersi liberare il tempo per lottare contro questo sistema di merda, assolutamente verissimo. Il problema appunto è che la lotta politica per fare in modo che questo mondo cambi arriva dopo tutto quanto il peso che noi dobbiamo portare addosso come lavoratori, lavoratrici, figli, parenti, genitori, tutta la complessità della realtà. Ma forse è necessario, un po' per quella rabbia di cui parlava poi adesso Simone, un po' perché questo mondo altrimenti ci trita, ci atomizza e ci fa in modo che noi da soli dobbiamo sentire il peso di risolverci i nostri problemi, abbiamo perso completamente la percezione che insieme è meglio, insieme ci risolviamo i nostri problemi personali e sociali e che insieme ha tutto molto più senso, stare insieme, lottare insieme, vivere insieme. Quindi l'offerta che non è un'offerta, l'affermazione è bisogna fare fatica, bisogna sbattersi. Se volete, ci saranno altri momenti come questo dove partecipare per fare, tra virgolette, poca fatica, passiamo tutti a chiacchierare, ma vuol dire che comunque non andiamo a letto presto, vuol dire che magari uno deve farsi venire dei dubbi sulle cose che pensava, deve prendere appunti, immaginarsi le cose, e in un domani bisogna fare fatica quando fa il corteo, quando fa gli scontri con la polizia, ammazzi borghesi e tutto il resto, ma vabbè, quello sarà una gioia. Però, no, ecco, non si perda per strada il fatto che alternative ci sono, bisogna fare fatica. Questo blog lo conoscete, ci siete arrivati stasera, ci sono i profili social, li conoscete perché basta aprire il telefono, li trovate subito, basta scrivere ZAM, trovate qualsiasi cosa, fate fatica, venite a fare fatica con noi se volete, iniziamo a fare fatica un po' tutte quante assieme per cambiare un po' le cose. Questo percorso, le parole per dirlo, nasce anche in base al fatto che bisogna ragionare per creare delle nuove idee, per fare in modo che un discorso là fuori esista che di qualcosa di diverso dallo schifo che fa adesso. Per cui, ecco, cioè, che vogliate diventare fidelizzati di questo percorso, di altre cose che facciamo qui o altrove nella vostra vita privata, ecco, lo sprono che secondo me bisognerebbe dare, credo che come ZAM stiamo un po' arrivando ad affermare, iniziamo a fare fatica, sbattiamoci per cambiare questo mondo, perché tanto da solo non ci ascolta e continuerà a passarci sopra. Minaccio, cateno, magari in radio parleremo di Anassimandro e le basi filosofiche della democrazia, perché io sono ignorante e vorrei uscire dalla mia condizione di ignoranza. A posto, grazie mille a tutti e a tutte, è stato fantastico. Vedrete comparire la prossima data, cos'è Miriam, meritocrazia? 21 dicembre, favoloso, sotto Natale, bellissimo. Poi regalate il podcast come regalo di Natale. Toh, ascoltati questo, fantastico, ciao a tutti. Bello.